Lei è un insultatore che crea dei problemi alle persone che sono povere. Si vergogna, si dimetta dalla posizione che ha. Io non so come fanno a tenerla lì. Ecco, anche questo è vero, ha ragione Librani. Un insultatore. Ma roba, io esprimo le mie idee. Guardi, le do un consiglio, dato che io non sono d'accordo con lei, mi chiuda la, no, la comunicazione. Perché no. Lei è anche un personaggio del genere, sì, che quando uno le fa girare le palle chiude la comunicazione. Si vergogni. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Che ti voglio dire, guarda, io se io adesso esco qui fuori, no? Mettiamo in casa che verso le... Verso, porca puttana, mi sta chiamando la zanzara. Ragazzi, è semplice. Se volete spiegare cos'è lo squirting a Lucia da Pordenone, o volete parlare dei vostri protocolli ospedalieri che permettono la pisciata nel lavandino, o volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800240024. Se invece volete comprare dei biglietti da Pascal o Bagarina, o volete dire a quale categoria appartengono le vostre scoregge, o volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393-7171-701. Siamo al peto! Siamo al peto! Mamma mia, quanto mi piacerebbe incontrarti per vedere quanto sei stronzo di persona, Io mi chiamo Davide, come il re dei giudei, porta rispetto, mi chiamo Davide, come il re dei giudei, porta rispetto infame, perché non mi rinchiudono, perché i magistrati di merda hanno paura di me, perché ho fatto mille denunce e sanno che glielo metto in quel posto se ci provano a portare il processo, hai capito Cruciani? Senza controllo sanitario. Bonnezza, parlate di pucchiacche. David, ho le mani tutte sporche. Aspetta, mi pulisco un attimo. Che fai? No, è la carta, mi sto pulendo un attimo. Carta di cose? Sì, no, perché oggi io, come sai, si avvicina la Pasqua. Avevo deciso, un anno fa è successo tutto quel casino con i vegani, lo sai, no? Come dimenticarlo? Il coniglio, poi l'assedio, l'agnello, l'assedio, un paio di manifestazioni di quattro scannagatti, diciamo la verità. Una manifestazione meravigliosa, c'è stato un assedio straordinario, come non si vedeva dal 1969, quando occupammo la statale di Milano con i compagni, con i Katanga, devastammo tutto. I professori baroni scappavano come conigli. Effettivamente anch'io sono scappato come in quell'occasione. Coniglio, meraviglioso. Sì, bellissimo. Qualcuno mi ha accusato di essere scappato come un coniglio. Come un coniglio, i signori... bellissimo. Bellissimo, sì, no, i signori pacifisti che dovrebbero essere pacifisti, mi hanno accusato soltanto di mazze e bastoni, ma una cosa innocua si faceva negli anni 70, non c'è problema. Vabbè, insomma, è successo un anno fa, no? Non è che uno dice non c'è bisogno di nuovo di fare una campagna a favore della carne, dell'agnello, del coniglio, eccetera, eccetera. Beh, anche dopo la vicenda di Berlusconi, non è che ho detto vabbè, basta, mi sono anche scocciato di parlare sempre delle stesse cose. Poi oggi la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Qual è la goccia? Amico mio, innanzitutto Berlusconi dovrebbe un po' considerare questa cosa. Beh, sì. No, Berlusconi dovrebbe pensare, se una persona che è lontana da me mille miglia fa la stessa cosa, forse io ho fatto una cazzata, signor Berlusconi, no? Sì, tu cosa dici, certo. Beh, sì. Amico mio, certo. Cosa è successo oggi? Molti di voi magari già lo sanno, se sono affezionati alle battaglie di questa trasmissione. La signora Boldrini, sì, presidente della Camera. Ha salvato degli agnelli, signor Boldrini, sì. ha salvato sì, due, a parte due agnelli femmine, non si capisce perché anche qui ho voluto scegliere due agnelli. Sì, due agnelline, giusto, perché due sono quelle che danno la vita, quindi salvando. No, le femmine, due... chissà perché. E sì, poi ha pronunciato una frase a un certo punto. Cioè, alla fine di questa cosa, di questa specie di cerimonia con un'associazione in cui Piccolo ha salvato. Sentiamo innanzitutto, sentiamo. Queste, quanto tempo ci hanno? Due mesi, quindi le abbiamo salvate alla macellazione, sì, se non capisco bene. Sì, un cuccioletto deve stare con la mamma. Per questo, io pensavo di adottarle. Ma cosa cazzo è l'adozione degli agnelli? Anche noi abbiamo preso la signora Zanzarina. Ma cosa c'entra? È un'altra cosa. Siamo a favore dell'uccisione, della macellazione, del mangiarsi l'agnello. Siamo a favore di questa roba qua. No, lei ha aggiunto che cosa? Ho voluto fare la mia parte in questa campagna di sensibilizzazione perché credo che il rispetto delle tradizioni non ci obbliga a uccidere altri esseri viventi. E allora, amica mia, non ti limitare a questo. Devi proibire di mangiare la carne. Ma no, se dici, perché? Come ha detto, il rispetto delle tradizioni. Ma sì, ma la politica, senti, è fatta non anche ci di obbliga. Piccoli gesti. Adesso, senti, io vita, non salvare queste puttanate, Boldrini, queste cose ipocrite. Credo che il rispetto delle tradizioni non ci obbliga a uccidere altri esseri viventi. Ecco qui. Esseri viventi. Venga proibito dalla Camera tutto quello che viene dal mondo animale. No, ma per carità. La proibizione. No, ma la coerenza questa! Ma per carità! Siccome sono fortunate, molto, quindi dobbiamo trovare dei nomi che ispirino, insomma, questo sentimento, no? Allora potevamo pensare a Gaia, bellissima. Gaia e Gioia. Bellissima. Gaia e Gioia. Allora, questa qui è Gaia. Questa qui è Gaia e questa è Gioia. Eccole qua. Gaia e Gioia. Auguri. Poi dice però che non le può tenere a casa perché c'ha il gatto. Ha il gatto. E non andrebbero d'accordo. Il gatto non sarebbe d'accordo. Questo ci può che stare, vergogna, no? La Camera imbrattata, lordata. La Camera dei Deputati, per cui non è che nutra particolare rispetto, ma in ogni caso la Camera dei Deputati lordata da questa follia. Un'ulteriore follia assurda contro gli allevatori, contro i produttori, contro la maggior parte dell'Italia. Vergogna, vergogna. La Camera dei Deputati contro la maggior parte dei produttori italiani di carne, contro una parte dell'economia italiana. Italiana, vergogna! Ora, portarle a casa io non ho, per dire, un giardino. Peccato, non vorrebbe peraltro. Gigi Pillo potrebbe risentirsi. Però non le porta a casa. Come le si pecore. Chiama il gatto? Gigi? Gigi Billo, non so come cazzo si chiama. Gigi Billo, sì, Gigi Billo. Vabbè, ognuno fa quello che mi sembra che molto più grave. Questa vicenda qui mi sembra che la stai esasperando. Peggio di Berlusconi. Questa cosa è peggio di Berlusconi. Me la stai è peggio di Berlusconi. Oltremodo, la terza carica dello Stato. Allora, ti dico subito una cosa. Io oggi ho acquistato. Ma sarà più grave il cos'hai acquistato oggi? Ho acquistato. Tremo. Cosa hai acquistato? Un vibratore? A noi, no, quelli li ho già acquistati nel tempo. A noi. Hai a casa, per curiosità? No, 3-4. Scandalo alla Zanzara, al Sole 24 Ore hanno almeno 4 vibratori. No, è Cruciani che ce l'ha. Ma diceva a generalizzare così forse, beh, però intanto non abbiamo diffamato, abbiamo messo l'intanto. Allora, a noi gli agnelli piacciono vivi, perché comunque l'agnello è un animale, certo, e non è che mi dispiace vivo, ma anche così. E allora ci sono 3 testine di agnello. Mamma mia, belle, sono vere? Sembrano proprio. Immagino. Cioè, non sono, sono 3 testine. Ma che si mangiano le teste d'agnello? Assolutamente. E come si il cervello, eccetera, si spaccano a metà, si mettono a cuocere, così mi hanno spiegato, grandi ricette anche con la testina di agnello. È una prelibatezza. La testina. Noi amiamo gli agnelli vivi e anche morti. Qui ci sono 3 testine di agnello favolose, però, acquistate in una macelleria milanese, e te le fai cucinare che riproducono stasera? Assolutamente, che riproducono esattamente l'agnello, il tuo piccolo agnello. Sa cucinare agnello? Il tuo cinghialese? Ma non, io non mi faccio cucinare da nessuno. Che fine fanno queste 3 teste adesso? Verranno portate a conservate come, sì. come il faux, come si dice in francese, sì, come bisogna fare, sì. Come sì. il faux, e poi, e poi cucinate, fatte al forno, appena comprate da cucinare. Loro fanno operazioni ipocrite, ne salvano un paio ma ne lasciano ammazzare migliaia e migliaia. Se fossero coerenti Berlusconi, Boldrini e compagnia cantante, sai che cosa dovrebbero fare? Proibire l'uccisione degli agnelli. Fare proposte di legge. Dove sono queste leggi? Qualcuno forse le ha Dove fatte. Sono? Non loro, non loro, che fanno propaganda con gli agnelli. Uno a casa sua ad Arcore, l'altra alla Camera. Peggio la Boldrini, che utilizza la Camera per fare propaganda contro una parte importante della produzione italiana. Come Lotti, come Lotti al fianco degli allevatori. No, cruciali, ma non me ne frega niente, Lotti, non è quello, io non ne conosco Lotti. Proprio. No, ma posso non conosciuti. È una vergogna che la questo, Camera dei Deputati figurati. Venga utilizzata. Beh, adesso dalla... è una vergogna. Una vergogna, scusa, è il convegno antivaccini che vogliono fare alla Camera. Scusami, quella Davide, è una scusami, adesso io mi incazzo. Perché... No, ma la vergogna è vera, tu dovresti arrabbiarti per il convegno antivaccini. No. Che Berlusconi fa Camera. Una cosa a casa sua, non ha questo. Nessun ruolo. Io l'ho criticato, come sai. Centro, io l'ho criticato perché comunque una parte del suo elettorato, secondo me, è contrario a questa cosa, ma sono cazzi suoi. Quella è la presidenza della Camera. E tu, come presidente della Camera, non solo fai questa buffonata ipocrita di portare, di adottare due agnelli, quanti cazzi erano, due agnellini alla Camera, facendo questa sceneggiata tutta animalista, eccetera, ma poi dici una frase che è agghiacciante. Allora, il rispetto delle tradizioni non ci obbliga a uccidere altri esseri viventi. Allora devi proibire di mangiare la carne. Devi farti promotore di una campagna per proibire. È incredibile questa cosa qua, è incredibile. Cosa dicono i produttori, cazzo? Alzate la voce contro questa follia. Basta, non ne posso più. Quando sento il traffico divento pazzo! Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presento la Zanzara. È saltato il traffico! Mamma mia, come godo! Perché? È saltata la linea! Signor La Corte ha fatto saltare la linea, no? Ma perché ha fatto saltare la sua? Ho sempre detto che quella è come Milosevic, La Corte. Ho sempre detto che è un criminale, sto La Corte. Ho sempre detto che è un criminale. Sì, ma ragazzi, non mi posso incazzare io. Alzate la voce, macellai, produttori di carne, allevatori, alzate la voce. Consumatori in generale. Sì, insomma. Consumatori, no, io sono un consumatore, non faccio parte di nessuna categoria, per fortuna. Sono ma quanta uno... carne mangerai tu a settimana? Ma io mangio due pochissima volte a carne, ma non, carne, non è quello neanche. Il punto. Poi qui mangio ci sono pesce, mangio molto pesce. Tre testine sì. di agnello favolose, qui, testine, sì, no, la testa dell'agnello, eccolo qua. Posso dire che non mi piace? La testa dell'agnello, con i due occhi, la vedi? Eccola qua, la testa dell'agnello. Con la lingua fuori, ottima. La testa, perché noi mostriamo la verità. Questi sono ipocriti. Questi sono ipocriti che ti fanno finta di adottare mentre ne ammazzano altri 20.000. Noi invece mostriamo la verità mamma di quello mia, che succede. Sì, però mi la fa testa della mia. Via. Ma che c'è l'impressione? Mi fa impressione. Eccola qua. Eccola un'altra ecco, più piccola. Ma via, mi fa impressione, più piccolo, dai, mi fa impressione la testa. Quest'altro mia, deve mia. Essere il padre, forse. No, non credo. Ma è una famiglia intera, che roba. Ma sì, tre. Stupendo, con gli occhi uguali. Papà, mamma, con gli occhi, per favore. Chi non può vedere vedrà. Vedrà foto e tutto. Queste sei, noi mostriamo la verità. Quelli sono ipocriti. Ipocriti. Al massimo ipocriti. Allora, veniamo al signor Di Maio, caro Parenzo. Veniamo al signor sì, Di Maio. Ma, signor poi, Di... ma poi parliamo di questo convegno che c'è domani contro i vaccini. Ma non me ne frega lo un diciamo cazzo. Che quella è una vergogna vera se dovesse essere fatto a Montecitorio. Io sono a favore di tutti i convegni. No, a favore di tutti i convegni. Che anche quello si facessero tutti in una cornice istituzionale, tutti i convegni, facessero no, tutti i convegni che vogliono. Quello non si può fare, secondo no, me. No, no, facessero dai. Tutti i convegni che vogliono. Io sono per la libertà. Io poi critico, però sono alla Boldrini. Ha tutto il diritto di fare una cosa del genere. Poi uno la critica, ha il diritto. Quello di trasformare la Camera in una specie di centro antianimalista, lo faccia pure. Poi uno però si becca tutte le critiche. E devono ribellarsi i produttori, gli allevatori. Sì, questo. La Boldrini rappresenta sulla anche loro, d'accordo. Rappresenta tutta l'Italia. Mica quei pazzi. Porca puttana. Di Maio. Cosa ha detto? L'Italia ha importato dalla Romania il 40% dei loro criminali. No, mentre la Romania sta importando dall'Italia le nostre imprese, i nostri capitali, che a fare questa Unione Europea. Che sciocchezza. Ti dico una cosa. Che follia. Signor Di Maio ha perfettamente ragione. No, in questo caso. Mamma mia, ha perfettamente ragione. Utilizza la propaganda. Sei in forza alla quinta colonna, proprio dalla vostra parte. La quinta colonna? Che proprio cazzo dalla c'entra? Vostra, Cruciani ospite dalla vostra ma parte. Ma cosa c'entra? Domani sera ospite da Maurizio Belpietro, Giuseppe Cruciani dalla vostra parte. Prego, di. Forza, argomenta questa roba dei rumeni. Allora, ma come si fa a dire una fesseria simile? Allora. E le badanti che c'entra? Puliscono il sedere ai nostri nonni e allora, alle nostre l'Italia nonne. Ha importato dalla Romania il 40% dei loro criminali. Che luoghi comuni. Cosa c'entrano stupidi? Le badanti? Cosa c'entrano le badanti? Pieno di badanti rumene. L'Italia, ma non c'entra, che tu non sta sai, parlando di un'altra è cosa. Pieno di ma allora è come dire che l'Italia ha esportato la mafia in America. L'hai mai visto, insomma, Sergio un po', Leone? Un c'era po', una volta. Ma sì, l'Italia non è la mafia. L'Italia non è la mafia. Ma lui sta parlando dei criminali. Ma quali criminali? Allora, il signor Ardita, che è un magistrato, ha detto l'altro giorno al convegno, quello dei 5 Stelle famoso, sì, a Ivrea, 40% sì, sì, dei delinquenti romeni scelgono l'Italia, l'ha detto il signor Ardita. Vabbè. O questo Ardita magistrato è un coglione, tu devi dire che no, è un coglione, ha detto, è una cosa Ardita, ha detto appunto, ha detto una Ardita ha detto una cosa questa Ardita buona, questa ecco, questo sicura dal mio punto di vista. Qualche tempo fa, qualche anno, ma le situazioni non sono, la situazione non è cambiata, il ministro rumeno degli interni, se non sbaglio, ci comunicò che di tutti i mandati di cattura europei che riguardavano cittadini rumeni, il 40% proveniva dall'Italia. Quindi questo significa che 4 rumeni su 10 che avevano deciso di andare a delinquere hanno scelto il nostro paese come luogo nel quale delinquere. Questo è un problema importante che riguarda la giustizia. Importiamo criminalità ma esportiamo capitali in Romania, sempre Ardita. Noi abbiamo in sostanza importato criminalità dalla Romania, ma abbiamo esportato capitali, perché molte aziende vabbè. Allora Luca e Paolo su Berlusconi negli Agnellini, vai. A proposito di Berlusconi, che tenerezza, l'hai visto domenica? Ha fatto le foto della campagna pubblicitaria per salvare gli agnellini. Agnellini, o come li chiama lui, pecore quasi maggiorenni. L'agnello che ha allattato l'ha battezzato, sai? La Biancofiore che dice che Berlusconi non l'ha fatto per fini elettorali. Signora Biancofiore, come siamo ingenui? Vorrei dire che il presidente Berlusconi non ha fatto questo ai fini elettorali. Vorrei dare una notizia a Maria Teresa, ma l'ha fatto perché ci crede, ha una tenerezza nei confronti di questi animali che io bellissimo, ho potuto vista, riscontrare, è meraviglioso. A tenerezza, ma certo avrà anche tenerezza, perché da nessuno lo nega, ma l'operazione è abbastanza chiara, no? Cioè, allora io vorrei dire una cosa, a me questi signori della chiesa che continuano a parlare di accoglienza, Parenzo, mi hanno un po' rotti i coglioni. Perché meno poi le porte del Vaticano sono sbarrate, le mura del Vaticano sono sbarrate, sono chiuse. Allora, di nuovo il signor Galantino, Monsignor Galantino molto retta, che dice pare, che bisogna molto dare un permesso di soggiorno umanitario, sì, anche a quelli che arrivano qui e non hanno diritto di rimanere. Bravo, qui. Bravissimo, Galantino. Ah, bravissimo. Certo, non c'è un po' di allora dubbio. Ospitiamo tutti. Cioè, un'idea anche a vista giuridico, fattibile l'idea di dare un permesso di soggiorno per ma questi. Ma poi restano per sempre. Perché almeno regolarizzano. No, non rimangono qui, non vogliono rimanere qui. Non vogliono rimanere qui. Appena ascoltano la zanzara, si rendono conto di che paese di merda siamo. No. E quindi scappano a gambe levate. Perché se loro appena arrivano per imparare, ascoltandola, via. Andersen, se ne vanno subito verso la Germania, verso posti più tranquilli, più sicuri, con opportunità migliori. Galantino che paese dice bisogna rendere la vita degli immigrati meno, sì, difficile. Bravo, esattamente. Meno bravo, difficile. Galantino. Quelli che arrivano qua senza permesso. Galantino, diamo... ministro delle politiche sociali. Molto bene. La politica dovrebbe ascoltare come Galantino. Messi. Monsignor Galantino dovrebbe essere più. Ma no, aprissero loro i cancelli. Non andate, cari o li ospitassero nelle case. No, degli... cari politici, non andate lì la domenica a baciare la pantofola al Papa, ad applaudire, a mangiare la prima comunione, poi dire bravo il Papa, bravo, bravo, e poi non fare nulla in Parlamento. Vabbè, come se nulla fate. Realismo, guardare con attenzione, leggere le storie vere e poi organizzarsi per rendere la vita di queste persone meno difficile. signor Galantino. Mi pare una cosa di buon senso, Galantino, che ha detto. Ma perché devi ripetere il nome? Abbiamo capito. Non lo so perché. Perché devi ripetere Galantino? Sì, ma lo so perché galante con gli immigrati. Galante con gli immigrati. Ma no, giusto. Eugenio da Brindisi, vai. Voi. Aspetta, Eugenio, che c'hai? Oh. Dimmi, dimmi. Allora, per quanto riguarda Ilona Staller, detta anche Cicciolina, se si lamenta che prende poco e poi spende 500 euro, come ha detto il figlio, per mantenere gli animali. Sì, effettivamente questo. Cazzo, ma allora va in tutti i supermercati d'Italia. Chiede perché quando... Cioè, allora, il figlio della signora Staller, per chiarire, no? Il figlio della signora Staller ha detto qui a Radio 24, esattamente in questa trasmissione, che di questo vitalizio di 2000 euro, 500 euro, poi non si capisce da chi, se da lui o dalla madre, perché era un po' confuso. Comunque, vengono spesi per i cani, per i cani. Adesso uno potrebbe anche obiettare dicendo, scusa amico mio, però 2000 euro di vitalizio che vengono spesi per i cani non è bello, no? Cazzo, io 500 euro faccio mangiare 2 miliardi di cani. Se lo spiego subito, basta vanno al supermercato. Vabbè, ma adesso che c'entra questo? Non specificare. No, cioè, vabbè, ma tutti i supermercati devono buttare la carne, la prendono, gli dicono scusa, e come faccio io? Scusa, ma quella c'ha gli allevamenti, c'ha 40.000 cani diversi, spende 500 euro al mese per i cani del vitalizio. Sì, così ha detto. Vabbè, puttanate loro, si Matteo Livorno, vai, Matteo, vai. Matteo da Livorno, dimmi. Scusami, oggi mi tocca darti ragione, mannaggia. Su che cosa, scusami? Ma no, su due cose. Allora, la prima, innanzitutto, io abitavo a Grosseto e già all'età dei 10 anni mia mamma una volta al mese mi prendeva e mi portava a scegliere il coniglio e il... E li ammazzavi tu? L'ammazzavo io, insieme al contadino. Matteo, bravo, bravo Matteo, sei stato a 10 anni ammazzavi conigli e forse anche le galline. Sei un genio. Questa è l'Italia vera della produzione, genio, dell'agricoltura, della non mi viene la parola. Parenzo, tu sei il più grande culatore del mondo. Sei il più grande culatore del mondo. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Crucia, c'è rotto cazzo. Ma del traffico non ce ne frega un cazzo, non ci serve solo del traffico di stupefacenti, che manca la bamba buona, la bamba buona. Papare, ma è possibile che te in 40 anni non hai trovato ancora una che ti ha squirtato sulle cosce? Io boh. Chi è questo? Mi dai per cortesia il numero di questo? Ma perché il numero di questo? Perché è stato commesso un reato. Mi dai il numero? Ma quale reato? È stato commesso un reato. Dammi il numero di questo. Voglio chiamarlo a casa, dammi il numero. Voglio, è stato commesso un reato. Qual è il reato? Di diffamazione aggravata. Possiamo un attimo avere il numero di questa persona? Fatemi che c'è già sentire questo. La procura. Fatemi risentire questo. Papare, ma è possibile che te in 40 anni non hai trovato ancora una che ti ha squirtato sulle cosce? Io boh. È stato commesso un reato per due volte. Ma qual è il reato? Qual è il foro competente? Da dove chiamo? Non lo questo? So, Roma probabilmente. Il foro, poi se dico foro figurati. Anche lì dico. Si può creare l'equivoco. Comunque è stato commesso un reato, prego la magistratura a intervenire. Ci sarà la magistratura di Trani. La magistratura che si di occupa Trani, di tutto, sì. Che si occupa di mettere sotto scacco la Banca d'Italia, Standard & Poor's, qualunque, il nostro, come si chiama, i reali nostri, chiunque. La procura di Trani può aprire un fascicolo su questo signore che parla di queste porcherie nei miei confronti alla radio? E dai. Comunque ragazzi, io sono molto vicino a un professore di tecnica, non so, di inglese in un istituto tecnico, se non sbaglio, di Vicenza, transessuale. Alcuni studenti ho visto. Hanno scoperto che si prostituisce in un sito. Siamo andati anche noi a compulsare questo sito. Un transessuale di Vicenza. Io sono andato a compulsare. Qual è il problema? Hai problemi? Hai problemi? Non sono andato a compulsare il trattato dell'Unione Europea, trattato di Maastricht. Sono andato a vedere un sito di escort trans. È possibile? È consentito? L'hai fatto, certo, ma è una porcheria. Per lavoro, per lavoro. Per lavoro. Per lavoro. Lui cosa fa per lavoro? No, guarda i siti delle puttane. Ma cosa fai per lavoro? Infatti sono a posto. Se qualcuno mi dovesse accusare, no, sai come fanno nelle aziende, di guardare i siti. Ma no, alzo le mani. Questa è la zanzara. Sì, effettivamente anche qui è scriminante, come dicono quelli di diritto. Allora, questo professore trans che si prostituisce, non capisco perché è stato sospeso. Ora, io capisco che possa essere imbarazzante, d'accordo. Ma se uno la notte si fa inchiappettare o inchiappetta, ecco, o fa delle porcherie con delle persone, eccolo, qual è il problema? Eccolo qua. Tu mi spieghi qual è il problema, Parenzo, per una scuola? Qual è il problema? Però non è sai, che... no, il problema è questo, che io non... Ma, qual... ma il fatto stesso, mi tiri dentro una conversazione che non dovrebbe neanche esserci. Perché? Perché poi passo io per moralista, per il solito... ma non dovrebbe neanche sussistere una conversazione. Perché? Su una conversazione, perché? Vedi come dico, una discussione, su sì, perché? Ma una conversazione, mi piace molto di più il tema conversazione. Perché? Ma perché è talmente messie della palisse che, ma per carità, ma se si prostituisce, ma che esempio è per sti ragazzi? È un insegnante, io non vorrei che gli insegnanti, infatti gli insegnanti di mia figlia non fanno queste porcherie, queste robe, dai. Che ne sai tu? Ma che no, ne sai? Ma lo so, perché è persone per bene. Si sapesse, ma cioè dai. Tu non ho capito perché, quale problema hai nei confronti ma di una professoressa e di tua figlia, nessuno, che magari fa la mignotta? Ma non la qual fa è? Ma che non la se fa, si scoprisse, non chiederesti la fa. La testa di questa persona? Ma no, la sospensione insomma, o no? Qualche sì problema. O no? Ma sei un bigotto, che gli sei. Guarda, ma che bigotto? L'unico guardi, dice scusi professoressa, ma lei ieri esattamente che cosa ha fa? Ma dai, perché dovrebbero ma parlare di questo? Questa ma no, qua ma di notte, un di notte fa la puttana, la puttana. Dai, senti, a casa mia, a casa tua abbiamo capito che tutto è normale. A casa mia non è normale, può essere. Ma io non capisco. I valenziani, la maggioranza. Questa qua è una buona insegnante? Insegna bene l'inglese? Ho capito, si comporta mio, bene con gli studenti? L'insegnante ma se di, lingue, di notte si fa lingue, inchiappettare dai. Lungo ridaglie, le strade di Vicenza, qual cosa è il problema? Dov'è il problema? Saranno cazzi suoi o no? O non è permesso fare la puttana e l'insegnante nello stesso tempo? Non è permesso? Ditelo allora! Dove c'è scritto? Bisogna difendere queste persone, come bisogna difendere quella puttana bulgara, quella prostituta bulgara, una lavoratrice del sesso che a Rimini, non so dove, è stata multata di 10.000 euro e giustamente ha avuto la forza di ribellarsi, di dire no, io non pago perché non stavo facendo sesso. Ma anche se l'avesse fatto in una macchina con un signore nella stradina, bisogna ribellarsi di fronte a questo moralismo, bisogna ribellarsi di fronte a queste cose vergognose, dai. Claudio da Pisa, partiamo, dai. Ciao. Vai Claudio, dimmi. Senti, un po' che mi conosce, quindi ascolta. Come? Io sono intervenuto stasera sì. Perché sono un iscritto del Movimento 5 Stelle, che è un meetup qui di Pisa. Sì, meetup di Pisa. Esistono ancora i meetup? Ma un attimo che meetup, scusami. Ma certo, io... dai, c'è un po' di casino dentro, ma... Meetup. Dai. Parenzo, quello che ha il detto ha messo la parola meetup. Guarda, ma è solo quella solo, mi dispiace perché sono ideologico, lo riconosco, ma solo la dice dove vai tu? Vado a un meetup. Ha messo il meetup. Oh. Ma quale, ma le sezioni esistono, i partiti, le cose dove meetup. Mi manda i matti lei quella, scusami, ma mi manda i matti. Ma posso continuare o no? Sì, sì, il meetup. No, mi fa nervoso, allora, scusa. Io volevo parlare, volevo dire fare un applauso meetup a Di Maio. Che ha detto che il 40% dei rumeni sì. criminali sono in Italia. Sì. Questo l'ha detto un ministro della Romania nel quindi 2009, bisogna dire nel 2009 l'ha detto, bisogna specificarlo. Sì, nel ma 2009. Voglio dire, infatti, voglio quando dire, qualcuno fa riferimento alle badanti o ai carpentieri o a lavoratori normali, no, non c'entra un cazzo, non ha offeso nero. Nessuno. I lavoratori sono in nero. Ma lascia perdere che sono in nero o no. Il problema non è che si non è che ha detto che il 40% dei romeni che vengono in Italia sono tutti dei banditi. Ha detto che il 40% dei criminali romeni vengono in Italia, qua. Dato del 2009, diffuso, esatto, diffuso da un ministro romeno. Partono da Bucarest, con l'autobus se ne vengono a Milano e ci passano a fine settimana, rubano e tornano indietro. Vabbè, io non so se rubano e tornano indietro, comunque il 40% ora, dei criminali. Di Maio, però, Di Maio, no, ritirare quello che hai detto, se no mi incazzo come una bestia. Ma normalmente non bisognerebbe mai ritirare quello che uno dice, se uno l'ha detto, non credo e che poi, si... E poi, ascoltami, digli a quella... quella voce melliflua lì, come si chiama, è intervenuto subito. Sì, Parenzo, non sopporta i meetup, Parenzo. Voce che vuoi fare? Non sopporta i meetup. Che devi fare? No, mi dà sui nervi proprio. Il concetto stesso di meetup mi dà proprio sui nervi. Vabbè, Claudio, ciao. Perché? Allora, ragazzi, queste tre testine di agnello presenti nello studio, che stanno cominciando anche un po' a grondare sangue, devo dirti la verità, Parenzo. Comunque, queste tre testine di agnello... anche noi adottiamo degli agnelli a modo nostro, mentre la Boldrini ha adottato due agnellini chiamandole non so come a... perché fa impressione? Non fa impressione, capisco. Perché io, magari, no, perché io tanto non li mangio le teste di agnello, per carità. Sì, com'è che ha chiamato Gaia e Gioia, chissà perché due nomi femminili. Comunque Gaia e Gioia, noi invece chiameremo questi nostri tre agnellini che abbiamo portato in studio la testa degli agnellini, in realtà. Ma per noi vivi e morti non fa nessuna differenza. Vivi sono belli, eccetera. Morti servono a mangiarli. Cioè, mi pare assolutamente normale. Cioè, sono belli sia vivi che morti. Infatti, sono bellissime queste tre teste, con gli occhi vivi, le lingue di fuori, bellissime. No? A me non fa per niente impressione. Ma non può farti impressione quello che mangi. Li mangi tu. No, sì. Ma io infatti, cosa ti fa impressione? Nulla. Ma infatti, io le teste d'agnello non le mangio. È ipocrita avere impressione. Non mi piacciono. Come non mi piace il fegato? Mi dice, vabbè, ti piace comunque, il fegato della veneziana? No, non mi piace. Voglio dare un nome. Io le chiamerei Esther. Richard, Esther, sì. Richard e sì. Asmodeo. Bellissimo. Asmodeo, Esther, Richard e Asmodeo. Eccoli qua. La smetta, intervengano i commessi. No, qui non ci sono, esatto, i commessi. Brava, Boldrini, brava. Non ci sono i commessi qui. Brava. Non ci sono per fortuna i commessi non ci sono. Al limite ci potrebbero essere i commissari prima o poi. Rick da Varese, Vai. Pronto? Dimmi. Salve Parenzo. Allora, no, sono cruciani veramente. Comunque va bene, uguale. Salve. C'è anche allora, Parenzo. Va bene. Cui. Ok. Allora? Però, niente, io so che voi, vabbè, a voi piace così andare per estremi. Ma non c'è nessun estremo qui. L'estremo, ancora una volta, voglio ribadire una cosa. Qui l'ipocrisia e la, l'appropriazione indebita di animali, il sequestro degli animali, non lo facciamo noi. Lo fanno quelli lì, Berlusconi e la Boldrini, che utilizzano per propaganda politica degli animali, facendo finta di salvare 3-4 bestie, mentre se ne ammazzano a centinaia di migliaia. Ma sono d'accordo con lei, e noi invece mostriamo la realtà. Sono andato dal macellaio e ho detto: mi date delle testine di animale? Questo, lo stesso macellaio mi ha detto: ma quello è lei, quello del coniglio dell'anno scorso? Sì, tre testine di agnello, eccole qua, tre testine di agnello, spettacolari. Ma cioè, come si cucinano le testine? Veramente non lo so. Non lo so, magari dopo ce lo faremo spiegare. Allora, Rick, che vuoi? Quello che volevo dire è questo: allora, bisogna essere realisti. L'emozione non fa bene alla razionalità, bisogna pensare che vuol dire? Non tutti possono fare i vegetariani. Io sono vegetariano. Ma so che mangiando le uova procuro una vita infame alle galline, cioè da qualche parte faccio quello che posso nel mio piccolo. Bisogna fare qualcosa per la qualità di vita e per la qualità di morte degli animali. Già si fa tantissimo, basta con questa storia, si fa tantissimo, ci sono dei casi di violazioni, si puniscano le violazioni, già si fa tantissimo. Ma andate a mi manda Rai 3 se volete parlare di questa cosa, che ce ne frega, qui parliamo di principi generali, di cose più importanti. Questi dicono che non bisogna ammazzare animali, il presidente della Camera lo dice che non bisogna ammazzare animali. Assurdo, ma dai, ragazzi, ma c'è una produzione italiana, o dite che la produzione italiana è fatta da assassini e allora lo dite, dovete essere coerenti nel dirlo, oppure non dite cazzate da Montecitorio. No, bisogna fare di fermo più là, per fermo. La qualità. Vabbè, chi se ne frega. Lasciativo Parenzo e alla defecazio non ci penso. Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità? Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Smart People Drive Different. L'auto e tutti i servizi in un solo canone mensile. E non ci pensi più. La Zanzara. Sono Richard Benson. Non mi interessa. Non mi interessa. Paura. paura dei nani. Un tempo non li potevo vedere, mi facevano tanta paura, una paura bestiale durante la notte. Non riuscivo a dormire. Ragazzi, un grande annuncio! Un grande annuncio, che Davide! È successo? Che è successo? Abbiamo vinto contro i rom della masseria! Grande vittoria della Zanzara contro tutti Parenzo, contro tutti i buonisti. No, abbiamo fatto una mediazione, abbiamo via, provato. A casa, via! Se ne sono andati. A casa, se ne sono andati. Via! Via! Sì, hai visto con che alla grande fine... moderazione. Con grande moderazione, sembro Borghezio, con grande sì, moderazione, esatto, sì, senza violenza, li abbiamo mandati a casa. Ma ci mancherebbe altro. Io dico che questi signori non capisco perché vengono lasciati liberi. Cioè, uno, se tu, adesso, diciamo senso? La verità, se tu vai in un posto, occupi una cosa altrui, sì, a un certo punto viene la polizia e ti denunzia per sì, occupazione abusiva. Cioè, sì, scusami Davide, come se si tu fa vai con Casa Pound? Ma d'accordo, se tu oggi vai in un negozio qualsiasi di una persona, sì, e ti metti lì e lo occupi. Sì. Poi quando ti beh, occupi... ma arriva una denuncia per occupazione, esatto, di una primo, cosa non mi secondo sì, quando tu decidi di andartene probabilmente ti fermano i carabinieri, ti ferma la polizia, probabile ti mi chiedono in caserma le generalità, probabile, no, probabile siccome quelli là sono rom, tre famiglie, due famiglie con 20 bambini, quando decidono di andarsene loro dopo mesi e mesi con quello che si è fatto un mazzo così, no, se ne vanno così tranquilli, sì, senza no, che nessuno sono dica nulla. Con io chiedo che venga applicato questo, io lo stesso trattamento che viene applicato a Casa Pound, uguale. Comunque marzo, Casa Pound marzo, viene denunciata quando occupa le case, vedremo, come i rom. Ne parleremo nei prossimi giorni, ne parleremo. Allora Luigi Marzo, come sapete, è il titolare di quella masseria, il proprietario di quella masseria. Ringrazia tutti, cioè, vabbè, sentiamo bene un po' di ringraziamenti, di esultanza del signor Marzo. Però lei ha vinto questa battaglia. Porta di via, ma grazie a chi? Grazie a chi? Con l'intervento della stampa, delle televisioni, con il vostro intervento, l'opinione pubblica. Sono andati via perché mi hanno minacciato di morte, si sono spaventati perché io gli ho denunciato i carabinieri. Per questo sono andati via. Ha ragione lui, questo è uno con le palle, con i coglioni, questo signor Marzo. Non lo conosco, ma mi sembra uno con i controcoglioni. Candidatelo nella ma vostra lista. Ma candidatelo chi? Ma chi noi se ne frega? Noi con Cruciani. Ma voi noi con Cruciani. Nuova ma lista, al nord, al sud c'è noi con Salvini, al nord c'è noi con Cruciani. Candidalo, mettilo capolista nella tua cosa. Metti poi quelli che sparano, metti un po' di transessuali, metti quella del camper. Hai una lista, secondo me, ricchissima di gentaglia che puoi mettere. Senti, mi hanno lasciato un museo degli orrori. E voglio mostrare quello che hanno lasciato queste persone qui, praticamente non lo so, no? Il museo degli orrori, sono orrori, orrori, orrori. Guardate le condizioni qui per esempio, insetti, sporcizia ovunque, ma hanno divelto i gradini che vanno qui in terrazza, guardate la distruzione. Macerie, hanno abbattuto muri, guardi, guardi quel capannone lì. Hanno creato una finestra, anche se mi restituiscono la proprietà, che cosa mi hanno restituito? Che cosa? Chi paga? Chi paga? Chi paga, Parenzo? Ma scusa, chi ma paga? Non avevano detto che avevano prodotto delle migliorie? Hanno avevano detto loro. Delle hanno migliorie. Detto, ma tu ti fidi di quello che dicono questi no, banditi? No, però dicevano, cioè, che avevano prodotto delle migliorie, dei lavori. Hai provato a fare nei giorni scorsi, per carità, il tuo animo porta a queste cose, ogni tanto è anche utile una trattativa. Hai provato a fare una trattativa, tipo la trattativa sì, Stato-mafia. Stato-Rom. In questo caso era Stato-Rom, d'accordo, Stato-Rom, con l'intermediazione esatto, sì, di Parenzo. Sì. Ma è una trattativa morta in partenza. Morte perché non c'era nessun senso ma in questa sai, trattativa. Ma alla fine se ne sono andati, però ma anche se ne sono andati perché abbiamo rotto i coglioni noi, perché questo ha minacciato di morte e il signore, grazie alle televisioni, anche per carità, non ci vogliamo attribuire tutto il merito, televisioni, giornali, due in particolare, due, le Iene e noi. Abbiamo fatto casino su questa cosa qua. Abbiamo insistito ogni giorno perché fosse restituito la proprietà al signor Marzo. Noi ogni giorno a battere il ferro finché è caldo. Battere il ferro, amici miei. Ma che sei impazzito, che la battaglia che ci siamo intestati noi di noi certo, con Cruciani. Ma che roba è? Vabbè sì. Noi con la Zanzara, no? Noi, noi con la Zanzara. Sette mesi di inferno, Marzo. Sì. Noi con la Zanzara. Ottimo, potrebbe essere una bella lista questa qua, eh? Sì, noi so, con la Zanzara, bellissimo. Ordine, vai. Non posso dire di essere contento perché non lo sono, perché gli ultimi sette mesi sono stati sette mesi di inferno da quando ho scoperto questa cosa, dalla morte di mia sorella, quindi come faccio a dire che sono contento? Contento di che? Ha ragione. Mentre ancora impazza la ricerca del serbo, del super killer serbo, no? quello di Budrio, sì, certo, che ha ammazzato pure altre persone, pare che addirittura possa fare il gigolò in Spagna, così dicevano oggi da qualche parte, sì, che me lo fa apparire anche da un certo punto di vista simpatico. Basta quella roba lì, no, perché un criminale che a un certo punto, cioè uno che è stato in carcere con lui, ha detto probabilmente è andato a fare il gigolò in Spagna, bellissimo. Comunque la moglie di quello ucciso a Budrio del bar, Maria Fabri, si auspica l'uccisione di Igor. Che non faccia del male a qualcun altro, più che altro, quello è una cosa bruttissima. Penso che sia basta adesso. Basta, deve essere basta, deve essere ammazzato. Deve essere ammazzato. La notte non riesco a dormire. Non lo so se riesco ad andare avanti, perché la notte non riesco a dormire, perché vedo sempre quegli occhi con la pistola puntata verso di me. Io voglio farvi ascoltare però, ragazzi, perché alcune cose nei giorni scorsi me le sono tenute qua, non le ho mandate in onda. Alcuni esponenti di un movimento che si chiama 100% animalisti, che in realtà andrebbe ribattezzato 100% coglioni. Ma sono quelli di quel 100%, l'ex neofascista, sì, Mocavero, sì. Mocavero DJ, 100%, quel neofascista padovano. Ma non so, ma che me ne frega se è neofascista. Lo ricordo, pensate, uno di Forza Nuova. Se fosse di estrema sinistra non sarebbe diverso. Beh, sempre non c'è coglione. Dubbio, però, è un però ricordiamo che è un neofascista. 100% animalisti andrebbe ribattezzato in 100% coglioni. Mocavero. Sentite, sentite. La moca del caffè conosco. Ma non lo so, Mocavero, non potrebbe essere chiunque, non mi interessa. Animalisti contro cacciatori. Cioè fanno a un certo punto un coro a un bambino, vanno a una fiera della caccia. Oh, mamma. Sì, vanno a rompere i coglioni alla fiera della caccia. Cioè, uno organizza per i fatti propri la fiera della caccia e sì, questi vanno a rompere il cazzo. E che devi fare? Sono fatti io, così. Ad esempio, sogno di fare la caccia alla volpe nelle tenute della regina d'Inghilterra. Vabbè, cioè, questo veramente... Ma non si fa più, secondo me. Non si fa, non si fa, si fa più. Questa è, no, questa è una finta, delle cose che veramente. Non cacciano nessuna volpe. No, meravigliosi, si veste tutti di prima mattina. Ma si una noia mortale, una noia. Ma quello sono nei film. Ma nei no, film, no, la fa ancora la regina. Nelle tenute della regina, sogno di fare la caccia alla volpe. Se c'è qualche ascoltatore, per cortesia, che vive in Inghilterra, mi ma aiuti perché? A realizzare questo sogno. Ma non sogno. È vero, ma adesso sicuramente qualcuno ci sarà, adesso vedrai. Qualcuno chiami, mi aiutate. Parenzo vuole ammazzare la volpe, che deve fare? No, vuole partecipare alla brutale. Caccia alla volpe. Mi piace tutto il rito della caccia alla volpe, tu non sai niente di quel rito. Comunque, andiamo avanti. Che dobbiamo sentire? Questi qua, che a un certo punto fanno un coro contro i bambini, senti. Bambino, bambino! Tuo padre è un assassino! Bambino, bambino! Tuo padre è un assassino! Poi se la pigliano con una donna là che sta sempre alla fiera della caccia con la moglie o la fidanzata di un cacciatore, senti. Che voglia di tirare con un cacciatore, imbecille! Sai anche un cesso! Sai un cesso! Io dico, ma questi qua cosa fanno durante il giorno? Perché io mi pongo sempre questa domanda: perché hanno tempo da sprecare per andare a rompere i coglioni a una fiera di cacciatori? Ma li lasciassero fare quello che vogliono, ancora, ancora contro i bambini, senti. Cioè contro i bambini, contro chi porta i bambini là. Non si portano i bambini alla fiera dell'orrore, alla fiera della morte! Che razza di educazione date ai vostri figli? Li insegnate che ci si può divertire uccidendo? State attenti che quando saranno cresciuti, i primi sarete voi! Allora, io chiamerei però Walter Caporale, quello di Animalisti Italiani, se non sbaglio, di questa associazione che l'altro giorno da Del Debbio ha fatto un casino tremendo. Chiamiamolo, chiamiamolo, divertiamoci un attimo, divertiamoci. Sempre con le, con i tre agnelli che abbiamo adottato, con i tre agnelli che abbiamo adottato anche noi. Abbiamo adottato anche noi tre agnelli: Esther, Richard e Asmodeo. Eccoli qua. Li potete vedere in webcam. Tre agnellini. Anzi, tre testine. Caporale? Sì? Caporale, amico mio, ma come fai a dire certe cose? Sono Cruciani. Cruciani, allora tu hai visto la trasmissione, io non ho detto che i macellai sono come l'ISIS. Ho capito, il coltello del macellaio hai detto. Macellaio, quel coltello, mi ricordava i coltelli. No, non hai detto questo, hai detto il coltello del macellaio, sì, di quel macellaio, ho capito, ma che c'entra l'ISIS col coltello del macellaio? Come, che cosa c'entra? Io non ho mai usato un coltellaccio. Non so se tu, Cruciani, vai in giro con i coltellacci. Ma quello fa il macellaio. Quello fa il macellaio. Ecco, perfetto. Un animalista non ucciderebbe mai. Ma che c'entra un animalista? Quello cosa vuol dire? Tu puoi essere anche contro il macellaio, ma cosa c'entra l'ISIS col macellaio? Attenzione, attenzione. Era un riferimento a quel coltello che usano i terroristi dell'ISIS. Tra l'altro, ma che ne sai tu? Tu hai paragonato quel coltello che aveva in mano il macellaio a un coltello dell'ISIS. Certo, perché il coltello mi ricorda sempre la violenza. Io, da animalista... Ma cosa c'entra? Quello lo fa di mestiere, lo fa di mestiere. Che vuol dire? Anche il serial killer lo fa di mestiere, usa il coltello. Ma che razza di paragone è? Ma sono Parenzo, ma cosa ti dice la testa? Ma cosa dice a voi che state insultando gli animalisti e chi rispetta la... Ma scusa, aspetta, calma, caporale. Scusa un attimo, caporale, con calma. Con grande calma, caporale, con grande calma. Il tuo amico del Debbio ha... dato dei dati falsi. Ma lascia perdere del Debbio, non mi interessa del Debbio adesso. Tu mi conosci, io per la prima volta in vita mia, ed ho 53 anni, faccio animalismo da quando ho 14 anni. Vabbè, allora? 40 anni. Per la prima volta in vita mia ho detto delle parolacce in televisione, cosa che non faccio mai, ma quando io vedo dare dei dati falsi, come i vegetariani 1.800.000, quando invece secondo le RISPES sono 6 milioni. Quando sento... Vabbè, dire, ma lasciamo perdere, dai, quello sono i vegani 1.800.000 magari. Ma, non... ma ha detto i vegetariani, ha mentito. Vabbè, quando ma lascia perdere del Debbio, non mi interessa. Allora perché non chiami del Debbio che ha mentito spudoratamente dicendo che i 3 terroristi di Patacan erano vegetariani? Ma che cazzo dice? Ha detto che tra alcuni, tra i terroristi del Bataclan... E quello ha detto. Ma non è vero, Cruciani, è falso. È falso. Ma lascia perdere quello che ha detto. Tu stavi dicendo una... Vabbè, ecco, querelalo. Ma che querelo, un coglione? Ma che querelo? Io non querelo nessuno, perché io vivo per gli animali e lotto per gli animali. Scusami, non caporale, scusami un attimo. Allora, se tu dici che i vegetariani o i vegani sono più pacifisti o sono meno violenti rispetto ad altri, uno si incazza, o no? No, io ti dico che... scusami, la carne è portatrice di... ormoni estrogeni che rendono l'uomo più aggressivo. Ma chi l'ha detto? Ma non è vero. Lo dici tu. Cruciani. È una puttanata, caporale. È una puttanata. Io lo dico. È una puttanata. Ti posso chiedere una cosa? Cruciani. Molte persone sono legate, come i programmi di Mediaset. Io ho una stima assoluta per Berlusconi, che ha salvato 5 agnelli. Molte persone sono legate agli interessi economici, agli interessi... Ma stai dicendo che del Debbio è pagato, che del Debbio è pagato dalle lobby, dalle lobby. Mamma mia. Non interpretare. E allora chi è legato alle lobby? Chi è legato ai produttori? Scusatemi, e le industrie di carne, secondo voi, quanto siete ingenui, non danno i soldi a tante persone che... Provalo. A chi li danno i soldi? Se si vende spudoratamente in televisione, ci sarà qualche interesse. Però scusami, tu stai dicendo un'altra cosa. Partiamo da una cosa, caporale. Sì, d'accordo, tu sarai mosso dalla passione. Partiamo da una cosa, che stai dicendo che chi mangia carne è più aggressivo. Puttanata. Ma non è una puttanata, è un dato di fatto, mi sembra. Ma di fatto da chi? Un dato di chi? Di chi è sto dato? Allora, gli indiani sono un popolo quantomeno meno violenti, gli indiani dell'India, non gli indiani... Ma c'hanno la bomba atomica in India, ma che stai a dire? Sono un popolo pacifico, non aggressivo, che ha vissuto... Ma insomma sono generalizzazioni, banalizzazioni, che sono un popolo più pacifico. Tu le chiami banalizzazioni. Però ma Hitler era vegetariano, di che parla? Lui non era aggressivo, Hitler. Di salute. Caro amico mio che conduci il programma con Cruciani, sappi che... A parte anche che non è vero, era vegetariano, perché Gesù di Nazareth è nato e vissuto con la comunità degli Esseni. Gli Esseni erano vegetariani. Ma non è importante se era vegetariano o no. Non ho capito, il vero uomo secondo te deve essere vegetariano o vegano? La società si avvia ad essere tutta vegetariana e vegana, come ha detto la FAO, come ha detto l'OMS. Sì. Perché nel 2050 non ci sarà cibo sufficiente se tutti quanti continueranno a mangiare. Stai dicendo e dunque i macellai oggi, tu come li consideri i macellai? Assassini? I macellai sono assassini, certo che sono assassini. Esseri viventi. E quelli che stanno dentro i macelli? Quelli che stanno dentro i macelli che sono? Se sono costretti a fare il lavoro perché non hanno altro, certo non li condanno. I produttori? Scusami Cruciani, tu sei stato mai ad Auschwitz? Sai perché le persone che fanno le guide ad Auschwitz piangono? Perché? Piangono non perché ricordano i nazisti che hanno ucciso milioni di persone, piangono perché ci sono state milioni di persone come voi, indifferenti alla sofferenza di quelle persone che venivano. Aspetta, ma che paragone è? Stai paragonando i campi di concentramento ai campi di allevamento, ai campi di concentramento. Certo. Gli allevamenti intensivi sono nati nel secondo dopoguerra, informatevi, proprio dopo aver studiato i campi di concentramento nazisti. È una vergogna. Ma che cosa dice? Ma è pazzo, che cosa lei dico? Ma certo. Ma che, voi non studiate, ma che razza di paragoni fa? Ma si vergogni per questi paragoni del cavolo? Ma quale dato di fatto? Ma, quale dato di fatto? Ma lei è presidente di niente, lei è presidente del nulla, di milioni di persone, del milioni di nulla, milioni di nulla, di nulla, nulla, il nulla, il nulla. Ma quali assassini, carnivori? Basta con questi paragoni, quei campi di concentramento. Sciocco, caporale, caporale, caporale, hai paragonato la liberazione degli agnelli alla liberazione dei negri, certo, dei negri, certo, caro lei, ma certo un cazzo, è una vergogna. Ma vergognati tu, che non sai chi era Martin Luther King, ma chi io... era Gandhi e chi era Nelson Mandela. Ma che neanche c'entra con gli animali? Cosa no, c'entra con gli animali? Il Mahatma Gandhi, ti voglio ricordare. Ma perché? Era no, secondo te siamo tutti assassini, e questo è il punto. Siamo tutti complici di un assassinio, questo ma è il punto. No, ma figurati se l'Europa o la Chiesa erano complici del no, adesso noi. Ah, no, vedi. Rispondimi, rispondimi. Dunque, noi adesso siamo tutti complici di un assassinio? Siamo tutti complici di un assassino adesso? L'Europa è stata complice del nazismo. No, ma adesso. No. Adesso siamo L'Europa, complici. La banalità del male di Anna Arendt. Ma che c'entra con gli animali uccisi adesso? C'entra e come? Perché una ma volta poi che c'entrano gli attentati? Scusa, un'altra cosa, che c'entrano gli attentati? Tu hai detto, se sgozziamo gli agnellini non ci dobbiamo meravigliare degli attentati. Ma scusa, ma che sei impazzito? Cioè gli attentati terroristici con gli agnelli? No, Cruciani, non fai il deficiente che non lo sei. Abbiamo detto che la violenza genera violenza. Chi mangia carne uccide animali è di per sé violento e quindi è la persona stessa. Dunque non ci sarebbero i serial killer, non ci sarebbero gli omicidi. Ma che caro Cruciani, te li vuoi leggere i dati della CIA o dell'FBI che hanno confermato che il 70% degli assassini inizia torturando gli animali? Ma non è vero, ma cos'è sta roba? Ma cosa? Ma perché devi dire queste stupidaggini? Dati perché devi dire cose inesistenti? Perché scusami, devi fare paragoni abominevoli? Fai paragoni abominevoli, fai. Perché per voi paragonare gli allevamenti intensivi alla carnatici è abominevole, perché voi vi mangiate la carne. Abominevole, è abominevole. Ma è la verità. Siamo complici noi, siamo complici noi. Però scusami caporale, io lo sai che che cos'ho qua davanti io? Lo sai cos'ho qua davanti? Lo sai? Lo sai? Tomasi, mia mamma è carnivora. Ammazzala allora, eliminala. Ma io le adoro lo stesso. Meno male. Sono un coglione come voi pensate. Caporale, però io ti sto dicendo una cosa. Ti sto dicendo, io qui davanti a me, qua, davanti a me ho due testine, tre testine di vite di agnello. Tre testine di agnello. Tre testine di agnello. Io sono felice invece di aver rubato, liberato e salvato 300 agnelli. Tre testine di agnello che io farò, che cucinerò. Tre testine di agnello che cucinerò. Esattamente come in passato c'era gente che si mangiava la carne umana ed era come ti orgogliosa di farlo, caro Cruciani. Chi? Non ti preoccupare. Chi? Ah, questo è abominevole. È abominevole. Chi? A chi è che mi hai paragonato su? A chi mangiava la carne umana è la stessa cosa. Cioè io sono un cannibale. Ah, io sono un cannibale. Certo che sei un cannibale, di vita. Caro Cruciani, l'hai visto il film Cloud Atlas? Ti invito a vederlo, perché ti presenti il futuro. Il futuro è un mondo dove si mangerà la carne umana, perché non ci sarà più carne animale sufficiente per 50 miliardi di persone. Mamma. Lo so che voi non ridite, perché vi fa paura pensare che sarete sì, molta paura, molta, lo molta. So. No, mi fa paura se sarei tu a comandare, questo è il no, punto. No, guarda, io non voglio comandare. E i cacciatori, come li consideri, signori cacciatori? I cacciatori sono assassini, di esseri viventi e vigliacchi, perché uccidono animali che non si possono difendere da soli. Io sono a favore della caccia. Caro Cruciani, sono a favore della caccia. Allora sei un vigliacco, sei un vile, perché tu dovresti sfidare me ad andare a caccia ad ammazzarti io e te. Non ti ma perché? Sei un vigliacco. Sei un vigliacco che uccide esseri viventi che non si possono difendere. Vabbè, caporale. Sei un vigliacco, un vile, per me a sfidare me. Ad armi pari, vediamo chi è te, vediamo che vince. Ciao. Allora saresti un uomo. Rispondi, caporale, sei impazzito. Ciao. E cosa facciamo? Sono un vile, un vigliacco. Sì, un vile, un vigliacco. Ciao. Buonasera, amico Rom. Sono Parenzo. Per lasciarti andare. Handicappato, malato di mente, di centri sociali, bruciarli tutti col napal. Suona una fisarmonica. Col napal. Fiamme nel campo Rom. La zanzara. Ora di domenica io sono contento perché mangio l'agnello aggiornamento da Marrakesh: la carne di cammello è buonissima. Ciao Cruciani. Oh, ma sti cazzi di vegani stanno sempre più fuori di coccia. Hanno rotti di coglione. Perché mangio l'agnello. Silvio e la Boldrini adottano gli agnellini. Ma gli italiani sono a pecorina da una vita. Io sono contento. Naturalmente. Perché mangio l'agnello. Ma lo sai che è molto rock questa canzone di Ra? Cioè molto molto rock questa canzone che si chiama Asmodeo, vai via. Asmodeo, vai via. A me piace come dice, sì, vai via. È vero, perché c'ha un attimo di pausa, perché no? Perché ha un attimo di pausa, ma poi è imperativo, sì. Dice, cioè Asmodeo, vai via. Asmodeo, vai via. Allora, Taman da Cremona, vai, Taman. Oh, finalmente, Taman. Perché la realtà è questa. Bene, cosa, la realtà di no, cosa? No, la realtà non è Luca Giovanni, la realtà è Taman, è Abdallah Kabakebji, è Ciuncin. Ascolta, prima di un tutto mondo... non sono Tamal. Sì. Come si chiami? Come ti sono chiami? Un rumeno, sì. Sono ottimo. Taman, sono Taman. Solo 5 lettere nel mio nome. Taman, sì, vabbè, non ti incazzare, okay. Però io, Taman. Beh, no, è incazzato e offeso. Con il telefono all'orecchio. Certo, non so neanche se ce l'ho ancora il braccio. Ti chiedo scusa a nome di tutta la zanzara, grazie, e ti dirò di più, fratello, fratello mio, ti dirò di più. Da oggi c'è una nuova legge. Vuoi chiedere scusa anche a nome, no, di Di Maio? C'è la quota, anche a nome di c'è Di Maio? La quota, oggi c'è la quota stranieri, cioè alla zanzara avranno la, te lo dico io, alla zanzara da domani avranno la precedenza di chiamare. Vero, ma chi l'ha detto? Sì, come per le case, gli stranieri. Ma questa non è nuova vero. Idea che mi è venuta lì per sei lì. Impazzito. Mi sei. È venuta un'idea lì per lì per dare garanzie e diritti. Perché il migrante che deve lavorare non può stare 40 minuti al telefono. Mentre lo stronzo qualunque, vedi Donato da Varese, che in genere chiama e interviene subito, bisogna dare la precedenza agli stranieri a questa trasmissione. Vabbè, Taman. Cominciamo col dare il buon vuoi esempio. Vuoi chiedere scusa anche a nome di Di Maio al signor Taman? No, sì, no, voglio no, chiedere, non deve scusi. Ecco, mi dispiace. Questa, aspetta, perché, aspetta. Perché il suo livello di preparazione si vede che prima di parlare di un popolo, di un'economia di un bravo, popolo, bravo. Si deve prima informare. Quella che avete esportato in Romania, sì, è quasi ugualmente uguale con quella che è tornata in Italia. Dal non ho capito, però spiegati, amico mio. Qua. Spiegati, sì, ha ragione Di Maio o no? No, non ha nessun tipo di ragione, perché lui parla come Salvini, parla come quella da Varese che non mi ricordo adesso. Donato, come si chiama. Donato. E sì. Tanti altri. L'unica cosa che ma che dice? Ma lui che... sta parlando dei criminali, non di quelli che vengono a lavorare onestamente. No, il 40% dei criminali, sì, ha detto. Parezzo, per una volta che dico che Di Maio ha ragione, ricordato. Una volta, vedi, la differenza tra chi ha i paraocchi sui 5 parlare, Stelle. Capirai che non voglio dire niente di male di voi. E due, il sottoscritto è che aspetta un attimo, Taman, che l'altro giorno abbiamo massacrato Di Maio per quella frase sulle bombe, no? Dice era meglio tirare 60 milioni di euro, di dollari in Siria piuttosto che le bombe. Puttanata. Questa qua invece è una cosa corretta. Ha detto dalla Romania abbiamo importato il 40% dei criminali. I dati tutti completamente sbagliati. Vabbè, Taman, allora? Perché... No, se mi lasci parlare possiamo arrivare alla fine a un consenso, ok? Un consenso. Da Romania non vengono solo... Io per esempio faccio l'autista. Mi devo svegliare alle 2 e portare in tavola ai italiani, ai rumeni. Stai buono, Esther, stai buona un attimo, fermala. Hai capito? Esther, no, sto parlando all'agnellino qua. Esther, stai buona un attimo. È morta la testa. Anche mi piace l'agnellino. Questo è stato registrato prima. Sono in tutti gli ospedali, lavorano anche dei rumeni come infermieri. Vabbè, però, ma non ci fare due coglioni così. Lo sappiamo che ci sono dei rumeni onesti, ne conosco. Quando c'è qualcosa da parlare, quando c'è un zingaro o un rom, come li chiamate voi, è rumeno. Quando c'è, lo sai quanti sforzi ha fatto questo paese per integrare i rom? Sì, però Tamanno, qui, questo non è forum immigrazione della Caritas, è forum immigrazione della Zanzara. Okay. Non ci puoi dire che ci sono dei romeni onesti. Lo sappiamo che ci sono dei romeni onesti. Lo sappiamo. Tu che mestiere fai, per esempio? Quel post lì ha offeso... Io ho iniziato a lavorare, ce l'ho 43 anni, ho iniziato a lavorare in anni 90, proprio quando è finito il comunismo, ha iniziato benissimo. Il capitalismo. Benissimo, sei onesto. Di Maio voleva dire semplicemente una cosa, che il 40% dati del 2009 del il ministro... nuovo portavoce del futuro ministro Di Maio. No, ecco sto qua. Dicendo che in questo... Io qua. Tutti i miei dati... Ma che dati c'hai tu? Che cazzo fai nella vita? Che dati c'hai? No, dai. Aspetta, il mio nome, tutte le mie busta paghe, tutti i miei impegni che li ho fatto ma in Italia. Ma chi ha detto io di no? In 10 anni, 6 giorni, senza avere un contratto indeterminato. Se te o un altro trovate sul mio... Ma non sto dicendo niente, sei un onesto, ha detto un'altra cosa Di Maio, non c'entra niente, non ce l'aveva contro i lavoratori onesti, Romeni. Va bene, Luca dalla provincia, nessuno l'ha messo, Luca dalla provincia di Cuneo, dai. Sì, io sono Luca. Beh, lo sappiamo, volevo, l'ho detto Luca. Volevo dare un messaggio a tutti gli animalisti, anziché gli agnelli, tutte le sere gli animalisti dovrebbero chiamare la Zanzara e parlare con Cruciani. Sì, ma chiamano, ogni tanto chiamano. Già lo fanno. Chiamano, però devono ricordare una cosa a Cruciani. Cosa? Che Mediaset ti ha portato in tribunale. No, e non ho capito. Sì, bene, allora? Che cazzo vuoi? Sei un allevatore? Sei un allevatore? Se questo si è presentato come allevatore, ormai nessuno più compra carne. Ha utilizzato questo trucco per dire una cazzata, per dire una cosa sua, di cui che non interessa a nessuno, che sono cazzi miei. Ha parlato così, capito? Utilizza questo trucco. Questo poveretto, pazzesco. Luca, sei ancora lì? Sì, certo, cosa fai? Come sei un poveraccio, appunto, Giovanni dalla provincia di Bari. Giovanni dalla provincia di Bari, è un coglione. Giovanni dalla provincia di Bari. Ah, che bisogna sopportare, ragazzi. Ma siamo qui che combattiamo! Giovanni dalla provincia di Bari, dai. Sì, sono uno di quegli stronzi italiani che sta da un'ora ad aspettare che parli un rumeno. Sì. Cazzo. Allora, prendetela con rumeno. Io sono... 40, è stato 40 minuti al telefono in rumeno, sì. Quindi, sono cioè... di Santeramo, in provincia di Bari, un paese che si basa sulla carne, sappiatelo. Sì. Noi viviamo di carne, produciamo carne, macelliamo e allora carne. Marcia su Montecitorio, marcia su Montecitorio, marcia su Montecitorio, grande manifestazione. Cazzo. Bravo, vai! Un agnello, pacificamente, licenzia un Santermano. Chi adotto un agnello licenzia un Santermano. Beh, adesso, questo chi mi sembra eccessivo. Un agnello licenzia un Santermano. No, sta dicendo che chi adotta un agnello licenzia, cioè ovviamente, distrugge l'economia. Sì, certo, amico mio. Allora, mi hanno detto, io lo sapete, non sono il portavoce di nessuno, non ho mai fatto nulla. Non ho mai parlato di cose che riguardano le industrie, le aziende, eccetera, eccetera. Però in questo caso mi tocca farlo. Allora, ci sono 30 miliardi di fatturato, 250.000 addetti nell'allevamento, eccetera, eccetera, cioè. Di cui 100.000 allevatori. Ora, ragazzi, la Boldrini si è messa contro tutte queste persone. Il presidente della Camera, terza carica dello Stato, si è messo contro persone come lui. Come si chiama questo qua? Come ti chiami? Giovanni, dalla provincia Giovanni. Di Campobasso. Che lavora... Bari, Giovanni dalla provincia di Bari. Santeramo in colle, dove la gente si fa un mazzo così sulla carne e su altre cose. Il presidente della Camera cosa fa invece? Invece, perché non ha nulla da fare evidentemente se non cerimonie e cose di questo, si fa un mazzo così nelle macellerie, cara Boldrini. Un mazzo così, e tu che fai adotti due agnellini e dici che uccidere gli altri esseri viventi non va bene? Capito? Questo fa un messaggio. Asmodeo lo voglio con le patate, Esther con la cipolla rossa di Acquaviva, che è un altro paese. Più tardi, che è se rimanete con noi, una grande sorpresa, un collegamento con un grande cuoco, Parenzo, un grandissimo cuoco, non di quelli che appaiono in televisione, di quelli che si fanno il mazzo così dalla mattina alla sera, esattamente uno cuoca che ci dirà come si cucinano le molto testine bene. Di agnello. Sì, non mi fanno impazzire. Giovanni, quanto sei incazzato per la cosa che ha detto la Boldrini? Sono incazzato perché Berlusconi e Boldrini adottano gli agnellini, io invece sto con Salvini, cazzo. Vabbè, questo che c'entra Salvini, adesso se non c'entra, no, perché a Santeramo c'è un candidato sindaco che l'ha detto apertamente, se ne frega, non lo so se è di Salvini, di Bossi, di chi è, ma mangiano carne dalla mattina alla sera. Vabbè, io non è sto che con tutti, loro. Non è che bisogna essere per forza salviniani per mangiare la carne, cioè, per oggi, fortuna è oggi. Trasversale. Noi viviamo di agnello, carne di cavallo. La carne di cavallo come la mangi a Santeramo in colle non la mangi da nessuno. Carne di cavallo no. Carne di cavallo no, assolutamente. È buonissima. No, i cavalli ma devono fare il palio di Siena, devono servire per le ogni pet therapy. Ogni angolo di strada c'è una macelleria, si sente il profumo. Io sto per tornare le a casa. Vogliamo chiudere tutte? Le vogliamo chiudere tutte? Le vogliamo chiudere tutte? No, no, no, rivolgiamo un pensiero a Casteltesino. Rivolgiamo un pensiero a Casteltesino, a tutti gli amici. Come chi è? Cos'è, semmai? Posto straordinario. Rivolgiamo a tutti i lavoratori di Casteltesino. Rivolgiamo un pensiero affettuoso a tutti i lavoratori di Casteltesino. Perché sono c'entra il lavoratore di Casteltesino? C'entra, come così? Ah, di dove abita quel signore là, dici? Rivolgiamo dove una, abiti tu, Giovanni? Sant'Eramo in Colle, che c'entra Casteltesino? Ho capito, siamo Casteltesino. Ma frega niente, 2000 lavorano con la Vabbè, ho capito, ma anche Sant'Eramo in Colle. È meglio Casteltesino. Ma perché è meglio Casteltesino? È meglio Casteltesino perché c'è gente, sono lavoratori più che non lavorano con gli anni come questo signore qui. Ma perché c'è questi cavalli? Sentite, i cavalli devono dalla mattina alla sera. I cavalli non si devono mangiare i cavalli, ma quale non vuole mangiare più carne, ci ha rotti con pieno di macellaia Casteltesino. Ha ragione Giovanni, pieno di macellaia Casteltesino, ma non carne di cavallo però. Allora, se uno in colle carne, benissimo, vedete allora, cosa vi esce. Bene, allora Giovanni giustamente dice: mi sono rotti i coglioni di quelli che dicono non solo che non mangiano più la carne, eccetera, eccetera, ma soprattutto di quelli che ci vogliono imporre un'altra cosa. Capito, Giovanni? Ma supermercato, vedi quanto cazzo costa il cibo dei vegani? Vedi un po', vedi, fatti una bella bistecca con 4 euro. Giovanni è incazzato no, beh, nero perché c'è un leader politico importante come Berlusconi e il presidente della Camera che in 3 giorni hanno massacrato produttori, allevatori, consumatori dall'alto dei loro scranni, capito? È una vergogna questa roba qua. Io sono dalla parte di Giovanni. Se Salvini viene a Sant'Eramo lo devo portare dall'Aertina alla macelleria, Salvini. Siamo a mangiare la carne da cavallo e vaffanculo a tutto le vegane. Vabbè, eccolo. Ciao, no, Giovanni. Intanto parli con educazione. Lascialo parlare come parli vuole. Parli con educazione. Proprio noi lo diciamo, dai. Beh. Sono un puttaniere e me ne vanto. Sono un puttaniere e me ne vanto. Ciao amico mio, ti amo. Ciao, ciao. La Zanzara. La trattativa Stato-Rom. 6 mesi. 3 mesi. 2 mesi. 1 mese. Proiettile in testa, arruolamento nell'ISIS. Beh, Parenzo, sei il Kofi Annan di Radio 24. Ti voglio mandare in Medio Oriente. Ragazzi, ho mandato un'email a Trump. Masseria di Lecce, deposito di gas sarin. Guarda Parenzo, sto andando a occuparti casa a Siena, ci si vede fra un mesetto, eh? Trattativa in importa, un mese forfettario. Care cose, ciao. Allora andiamo a Venezia, ecco. Angelo, vai. Ecco qua. Questa carrellata. E buonasera Parenzo. Questa carrellata vai. Di umanità. Vai Angelo, allora, dimmi. E per quanto riguarda il discorso dell'occupazione a Cascina del Partito, per far capire a Parenzo cosa succede agli italiani, no? Allora, mio figlio, sì, l'ultimo figlio. Dell'anno, è andato ad una rave party. In un capannone abbandonato, non in una cascina. In un rave party, bene. È andato a un rave, quindi cosa è successo? Sarà pieno di droga tuo figlio, sicuramente. Ma non lo so, probabilmente, ma non mi interessa, sono affari suoi. Buono, giusto. Libertà. Il discorso è che è stato identificato tramite la targa dell'automobile del nonno, tant'è che i carabinieri poi hanno cercato il nonno. Ok. Poi mio figlio si è preso le responsabilità, giustamente, e comunque adesso ha dovuto trovarsi un bel avvocato, si è beccato una denuncia. Ma perché cosa? Per la denuncia è per l'occupazione. Perché il rave era illegale? Ah certo, sono tutti illegali. Benissimo. Male alla gola. Benissimo, adesso avvocato, processo e quant'altro. Sì, cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire? Quindi anche i rom che occupano, certo. Ok, dovrebbero essere trattati. No, ha ragione Angelo. Ha ragione Angelo. Non ho detto mai il contrario. Non ho mai sostenuto il contrario. Insomma, hai detto meno male che se ne vanno adesso che hanno liberato. Meno male, senza violenza, senza risse, senza cose. Meno male. Non è mai stato identificato di persona, preso la macchina che era nei paraggi. Ma che cosa ne sa lei? lei? Che cosa mi sta dicendo suo figlio? Ma c'era anche l'articolo ovunque su internet di queste comunque cose. Guardi, pensi a suo figlio che va ai rave party, anziché andare, andare al cinema a vedersi un film con, che so io, con Castellitto, con chi le pare a lei, un film americano, quello che ti pare. Vada al cinema, insegna suo figlio ad andare a teatro, insegna anziché il rave party, e poi rompere le palle qua la trasmissione. Ma senta qua, rompere le palle la trasmissione, guardiamo anche un altro aspetto. Guardiamolo. Sì. La spesa, ho capito che viene sostenuta per tenere questi processi, per aver identificato una targa di un'automobile nei paraggi, vabbè, manco la persona. Però Angelo, scusami, adesso io, per carità, va bene tutto, però non conosco la vicenda. Tu hai fatto un paragone corretto dicendo che tuo figlio è stato denunciato per aver partecipato a un rave party, hanno preso la targa, va benissimo, si difenderà. È giusto quando sostieni che invece i Rom probabilmente occupano e non succede un cazzo. Va bene. Ma senza tregua dovrebbero essere denunciati anche va bene loro, Angelo, grazie. Luciano da Napoli. Quelli che mi stanno scrivendo hai esagerato, hai fatto una provocazione di pessimo gusto, dovrebbero rivolgersi. Io non ho fatto nessuna provocazione di pessimo gusto, ho detto semplicemente che ho comprato 3 teste di agnello che ho ribattezzato in un modo, cosa che si può fare, certo, a noi gli agnelli piacciono anche così, cioè morti, non è vietato fino adesso, e l'ho fatto per rispondere alla campagna di Berlusconi, della Boldrini e di tutti quelli che vorrebbero toglierci l'agnello a Pasqua, ma soprattutto dopo aver visto questa mattina le foto del presidente della Camera, che a nome anche mio, perché è presidente della Camera, terza carica dello Stato, dice che non bisogna uccidere altri esseri viventi. Dunque la cosa di cattivo gusto è successo a Montecitorio, non qui, chiaro? Luciano, vai. Come lotta, Luciano? E che cazzo? Come lotta? Come combatte? Qualche settimana fa sui canali Rai, sì, il direttore d'orchestra Beppe Vessicchio, che conoscono un po' Vessicchio, come la numero uno assoluto, Vessicchio, sì, ha presentato un libro, non so se posso dire il nome del libro. Sì, assolutamente, ma qual è il problema? Dice, la musica fa crescere i pomodori. Sì, certo. In effetti loro hanno fatto degli esperimenti, no? E hanno messo dei semi, non so, di pomodori, di altre piante. Sì. E praticamente in delle camere con... hanno dimostrato che anche le piante sentono, diciamo. Bravissimo. Che anche le piante hanno una loro... Sì, c'è una teoria. Non toccate nemmeno le piante, allora. Non toccate nemmeno le piante. Bisogna saperle potare, anche quelle. Smettete di mangiare anche le piante, digiunate e arrangiate. Va bene, Lucia, ciao. Va bene, ciao. Togliesse la Boldrini, la bistecca di manzo alla Buvetto, al ristorante della Camera dei Deputati, togliere subito la carne allora. Ma per carità. Ma certo che non bisognerebbe farlo, se fosse coerente farebbe in modo di farlo, no? Cercherebbe di farlo. Vabbè, si può anche fare un uso più consapevole. Guarda, io non ne posso più di queste cose, guarda, dell'uso non ne posso consapevole, più. Comunque, ti dico uso consapevole, mamma mia, ma che sei? Ma che l'uso consapevole? Ma chi sei? Ma cosa sei diventato? L'uso consapevole, ma non ti vergogni di quello? Autoflagellati, vergognati di quello che hai detto. L'uso consapevole. L'uso ecosostenibile. Cioè, non ne posso più. Mi dicono che è rimasto un solo rom con una famiglia nella masseria. Resiste, non so fino a quando, forse fino a domani. Ma è il caso del... Ma io non ho capito. Ma sto qua, ma cos'è il caso mondiale? Com'è che si chiama questo qua? Aran. Ma se ne andrà anche lui, dai. Se ne deve andare, figurati, certo. Pronto? Amar? Sì? Sì, buonasera, qui Milano, Radio 24, salve. Buonasera a lei, signore mio. Come andiamo? Signore mio, vedi, gentile. Come andiamo? Domani a mezzogiorno non c'è nessuno qua, soltanto io sono rimasto. Ottimo. Sì? Perché è venuto ieri il proprietario con le telecamere, abbiamo deciso, io alle 11 domani viene il pulmino da Romania e sto partendo. Il resto sono andati. Sì, ma come mai sei rimasto solo tu? Scusa, è rimasto e va bene, insomma. No, mi è rimasto il bagagli, così io vado direttamente in Romania. Ah, hai deciso di partire, di fare armi e bagagli in Romania? Sì, l'ho preparato, l'ha visto il patrone, è arrivato pure la polizia, è arrivato ecco, l'amici tuoi. Perché avete deciso di mollare finalmente? Come mai avete deciso di mollare tutto? Se non c'è altra scelta, se è venuta la polizia, se il patrone è il suo diritto, no? Ho capito, però siete rimasti. Siamo arrivati a un accordo, mi pare. Ma bene, non c'è nessun accordo. Siamo arrivati alla fine del fine. Abbiamo chiesto un po' di tempo, il patrone non ha voluto dare, e così abbiamo deciso per andare. Beh, certo, ormai è una soluzione saggia, signor Rom. Mi pare una soluzione molto saggia. Sa. Scusi un attimo. Le fa onore. Ma no, che le fa onore? Quella ha occupato una casa. Che onore. Adesso se n'è andato. Basta prendersela col signore. È rimasto lì con le sue cosette, i suoi vestiti, le sue valigette. Domani se ne va. Lasciatelo tranquillo. Basta. Ok, grazie. Scusi, no, aspetti. Signora Marra, scusi un attimo. Ma lei che lavoro faceva in Italia fino adesso? Quanto tempo è rimasto in Italia? Io sono per ben 12 anni qua. Di 12. Sono qua. E che hai fatto in Italia fino adesso? Soltanto 6 mesi ho lavorato. Ma che hai fatto in questi 6 mesi? Un tipo di carpentiere, muratore, operaio. E in altri, tutto quell'altro tempo, 13 anni sei in Italia, 12 anni? 12 anni. Che hai fatto? Qualche traffico, no? No, ancora mi dici, siamo arrivati dal fine, come ti permette il traffico? Ah, ma tu sei Giovanni, scusa. Giovanni sono. Ah, se pensavo che fossi un altro, scusami, pensavo fossi un altro. Io ti parlo dolce, sono onesto, sinceramente. No, ma io pure sono onesto, io spione sicuramente sono onesto. No, pensavo fosse un'altra persona, scusami, Amarra, qui mi sono confuso. E come fai a sapere il nome mio direttamente, come mi chiamano rumeni? Ma sai, noi siamo giornalisti, sappiamo tutto. Cioè, sappiamo tutto noi giornalisti. Però il nome chi ti l'ha dato? Giusto Amar, io non lo so, c'ho scritto qua un nome, me l'hanno dato, noi facciamo diglielo chi te l'ha dato, però Amar ha ragione, ma perché devo dire le mie fonti, scusa, ha ragione, che fonti romanie, che fonti, scusa, ha ragione, scusami, i bambini chi sono, te l'ha dato? Ma non lo so chi me l'ha dato, ma rispondi, ma che rispondi a Rom, chi ti ha dato il suo nome, ma rispondi. Che ti interessa chi me l'ha dato? No, ci interessa sapere chi ha dato il nome di Amar. Amar, scusami, Amar, sì. Ma perché vuoi sapere chi mi ha dato il numero? Vabbè, il nome. Non cambia niente, però io ti ho risposto a tutte le domande. Sì, per carità, assolutamente. Ma chi dice niente? Amar, però abbiamo imparato una lezione importante da questa vicenda, no? Ma rispondo. Me ne vado, grazie di Dio, e vi lascio in grazie di Dio e auguri di buona Pasqua. Scusami, Amar, che c'è Parenzo che ti vuole chiedere una cosa. No, voglio dire, abbiamo imparato una lezione da tutta questa vicenda, no, Amar? Cioè, che è meglio, no, non si possono occupare gli stabili vuoti, capito? Questo. O no, oppure sei arrabbiato per come è finita la cosa? No, un po' ho passato, però stava prima arrabbiato. Perché se sapeva che sta qualche proprietario, nessuno non entra. Se sa che c'è un cane, un proprietario, l'ha questa casa. Scusami, amore mio, però, caro amico, no, non voglio dire. Amar, voi lo sapevate sin dall'inizio. Dopo a un certo punto avete saputo che c'era, anche se all'inizio non lo sapevate, a un certo punto è arrivato il proprietario. Perché non siete andati via e avete scatenato tutto sto casino? Se io mi trovo domani e io dico che sono il proprietario, non ci crede? Ma scusa, non ci credevate? Che deve fare? Non è mica lui che deve. Il prete e il comune mi hanno portato il serbatoio di acqua, mi porta ogni settimana l'acqua. Pure. E diceva che la casa è di Anas. Se stavi in posto nostro, il mio. Importante è che finisce con bene. Se ha finito bene, in suo vantaggio del patrone. Sì, Il proprietario. Ha vinto, noi siamo rimasti così. Qualcuno male, senza soldi, andare in Romania con i bambini, con le cose, è difficile. Ma in Romania ce l'avete la casa? Ce l'ho la casa, sì, come no. E perché cazzo non stai a casa tua in Romania prima, allora? Ma ti sembra bella parola questa parola che lei ha detto? Ha ragione, Roma, ha ragione. Ho detto, a insegnarti le buone educazioni. Ma se uno te. Ha la casa in Romania, perché deve venire qui in Italia senza una casa? Me lo vuoi spiegare un attimo, amico mio? Spiegamelo. E tu perché non mi hai risposto alla domanda, scusa? Ma io non ti devo dire da chi ho avuto il nome. Ma no, ma perché devi trattarlo in modo così sgarbato? Ma non lo sto trattando in modo sgarbato. Ti ha dato una lezione anche di buon gusto e di buon ton. Perché devi usare le parolacce col signor Romano? Ma io Rom? Ho non detto semplicemente, chi cazzo te l'ha fatto fare dalla Romania a venire poi in Italia? Chi te la vedrai che mi rispondi a me. Scusami, fratello Romano. Diceva, Rom, chi cavolo, ti ha fatto? Casta, era un'altra cosa, un'altra parola. Ah, tu mi devi insegnare come parlare. Tu sì, vieni qua, occupi certo. le case e tu mi insegni come parlare. Se parli male, per forza, hai ragione. Non lo so, Amar, dimmi se è normale questa cosa qua. No, io ti ho parlato dolce e semplice. ti ho fatto gli auguri di Pasqua. Ma io ti sto parlando semplicemente, ti sto dicendo, se hai una casa in Romania, gli auguri di Pasqua anche, ma va bene, buona Pasqua anche a te, però se hai una casa in Romania, perché sei venuto in Italia? Non c'è lavoro? Ma no, non ci sono posti di lavoro come non ci sono qua. Sì, il problema è che in Romania se fai qualche minchiata ti danno due bastonate in testa, questa è la realtà. Poi i rom in Romania non sono considerati bene, giusto? Sono trattati male, in discriminazione, come si fanno qua. Ma no, qua no, qua no, in Italia. No, pure qua siamo visti male. Vabbè, amico mio, buon viaggio, eh. Quando è che, quanto grazie, ci mette? Grazie. Quanto grazie. Ci mette ad arrivare in Romania con le tue carabattole? Ma perché carabattole? 24 ore. 24 ma perché ore? Carabattole? Con le sue cose, i suoi oggetti, carabattole. Le carabattole sono quelle che hai tu a casa tua, scusa. Ah, i suoi oggetti, le sue carabattole. I suoi oggetti, non ho mica detto che c'è. Oggetti sono altre cose. Allora. Ciao Mar, ciao. Ciao. Buonasera a lei, signore mio. Adesso parliamo seriamente. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Andate a fare il culo. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da Smart People Drive Different. L'auto e tutti i servizi in un solo canone mensile. E non ci pensi più. La Zanzara. Get your kicks, get your kicks. You gotta run real fast from the gloomy grips. So keep the bad thoughts out and the smoke away. Come on and get yourself together. Buonasera a lei, signore mio. Chi è? Il telefono che squilla. È il mio. Se mi stai chiamando? No. È pronto? Vodafone, servizio. Infatti il mio. Fai mi chiami a me. Andrea da Milano. No, non sei tu, cazzo. Non scherzi, ti stavo chiamando. Scherzi. Andrea da Milano, vai. Pronto? Vai, dimmi. Andrea da Milano. Mi sentite? Sì, ti sentiamo, dimmi. Sì. Andrea, ma volevo capire questi rom come sono usciti dalla casa di legge. Volevo capire. Sono usciti purtroppo senza essere fermati dalla polizia. Purtroppo. Ecco. Purtroppo. Sono stati identificati sicuramente. Ma che cazzo vuoi che succeda? Che devono andare in Romania? Partono comunque per andare liberi in Romania. Per occupazione abusiva di uno stabile. Che cosa succede? Una mazza. Vengono cosa intanto succede? Identificati. Cosa li avranno identificati come Aldo Giovanni Giacomo. Ieri e Bradorf. Dai, su, dai, una buffonata. Dai, è un paese di Pulcinella. Dai, su. Questi vanno liberi in Romania dopo aver occupato per mesi uno stabile, non loro. Dai, su, ma di che parliamo? Dai. Hai proprio ragione. Guarda. Anche oggi è venuto in agenzia uno zingaro che voleva assicurare la targa prova. Ma come fanno ad avere le partite IVA, le cose che non pagano le tasse? Cioè, spiegami questa cosa. In agenzia dove? In agenzia di assicurazioni. Sì. È presentato con un libretto tutto malconcio, tutto peunto. Sì. Che lui fa il venditore di auto. Sì, allora? Ma che ne sai che era zingaro? Oh. Che ne sai che era zingaro, Andrea? Ma si vede. Comunque, vabbè, Se vedi Cruciani per strada di notte, ti sembra uno zingaro. Ma non è vero, ma non dire cazzate. Assolutamente. Ma sempre elegantissimo. No, non è vero, sembra un russo. Un russo. Vabbè, Andrea, allora che è successo? Hai visto questo zingaro? Niente, non gliel'ho fatta, non ho voluto fargliela. Ma chiesto che voleva, scusa, l'assicurazione della macchina? L'assicurazione della targa prova. Ah, l'assicurazione quella che usano i concessionari per vendere le macchine. Ah, sì, ci sarà un imbroglio sicuramente. Ma perché c'era un imbroglio sicuro sotto? Ma perché c'è un imbroglio? C'è il reato preventivo. Senti, amico mio, dentro i campi rom. Vabbè, allora dentro, fate quello che dentro i campi rom ci sono imbrogli ogni centimetro. Va bene, ma ci sono imbrogli ogni centimetro, illegalità ogni centimetro dentro anche i campi rom. Dentro il comune di Roma. Anche quello dentro il comune di Roma può ci sono imbrogli. Fermo lì. Ciao Andrea, ciao. Ciao. Parte la telefonata, fermi. Sì, dai. Pronto? Dottore, noce. Dottore è uscito, telefono squilla, dottore è andato via. Va bene, dottore, paura, perché quest'ora parlano sempre puttane, non vuole parlare, dottore. Quest'ora. Ah, dottore, ha lasciato il biglietto, ha detto 2049, radio 24, parlano solo prostituzione, lobe anali, non piace, dottore, no, è andato a prendere piccolo aperitivo. Daniele da Roma, dai. Daniele, vai! Sì, eccolo! Dai, apri sta voce, apri sto canale. Ciao, ciao, ciao. Allora, ciao. Allora, la parte più buona dell'agnello è la testa. Sì. Tutto il resto si può pure buttare. Addirittura, tu sei di questa... No, vabbè, è un'iperbole, Cioè, comunque, è anche la testa è buona, dici, no? Ah, no, no, no, anche. Soprattutto, soprattutto. La testa è squisita. Il cervello dell'agnello è squisito. Addirittura. Certo, la spacchia. Ma come a metà. Si fa a fritto? Te lo dico io, no, no, parenti. Dimmi, Daniele. La spacchia al forno, la spacchia a metà. La spaccare a metà, queste testine che abbiamo qua, da spaccare a metà. Poi? La spacchia a metà. Poi? Con un colpo secco. Poi metti, prendi un testo da forno, sì. Ci metti la carta da forno, sì. Ci metti un po' d'olio, ci sì. Metti un po' d'aglio, ci appoggi sì. Le teste dell'agnello, ci metti sopra un po' di rosmarino e lo fai cuocere per il tempo di cottura adeguato. Quando è finito di cuocere, tu praticamente lo mangi con la forchetta, questo cervello dal cranio, che è una cosa che è fantastica. Cioè, ma dolciastro, non le devi... no? È dolciastro, o no? Sì, è fantastico, è buonissimo. Poi della testa cosa si mangia oltre alla... No, no, no, solo il cervello, il resto si butta, dai, veramente. Dai, solo il cervello, solo il cervello. Sì. Che ne pensi della signora Boldrini? Vabbè, io ho 28 anni. Sì, sì. Mi ritrovo in uno stato sì. Dove il presidente della Camera... Sì. Pensa che il problema più grande sia la mattanza degli agnelli a Pasqua. Sì. No. Ok? Beh, il problema più grande. Qui non è il problema più grande, ma nemmeno i Rom sono il problema più grande, oh. Ma nemmeno l'immigrazione. Oh. Sì, però quello, ragazzi, l'immagine del presidente della Camera che adotta gli agnelli e dice di fronte a centinaia di migliaia di persone che lavorano nel settore della macellazione, della produzione, che mondo. Dice che non bisogna uccidere altri esseri viventi, ma tu ti rendi conto? No, è fuori uno dal mondo. Show penoso. Penoso, fuori dal mondo, penoso. Fuori dal mondo, fuori ciao dal mondo. Daniele, ciao, ciao. Ciao, ciao. Caro Parenzo, questa signora ogni giorno combatte ai fornelli. Anna Dente, Osteria di San Cesareo, Roma. Anna, buonasera. Wow. Buonasera, buonasera. Come buonasera, stai? Signora come cuoca. Stai? Allora, oh. Allora che dici? Che dobbiamo fare? Dimmi un po', ma la testa d'agnello come si mangia? Si mangia tanto bene, pure buona. Noi abbiamo sempre mangiato, io 44 anni da macellaia. Sì, sì. Mia madre 60, ma che ci vanno le vanno? Certo. Che cosa? Che la devono fare finita, la devono fare, tutti che, quanti. Che gli vuoi dire ai vegani, Anna? Ma che gli devo dire ai vegani? Ognuno è libero di fare, se uno se vuole visto, quelli che si vanno ammazzati, si ammazzano, ma... Che bonno, che bonno. Ma guarda, sono parole. Che bonno. Sono parole sagge, signora Anna. Sono parole sì. Molto sagge. Ma scusa, mo basta, Hanno rotto. Basta. Si può dire che hanno rotto i coglioni? Detto proprio in romanesco, detto così. Ma come no? Si può dire tranquillamente. Senti, tu la testina di agnello. Vabbè, ma è tutta una moda, è tutta una moda. Chi sei, parente tu? No, io sono Cruciani. Io sono Cruciani. Io sono Parenzo. Cruciani. Ciao, Cruciani. Sei pure parente, mi sa, mio marito. Beh, non lo so. Pure. Tuo marito si chiama Cruciani? Sì, è una roba da, in famiglia. Da Rieti. Beh, io scandalo. Sono un po' sì, un po' è uno scandalo. Etrusco. Beh, di quella zona là. È una marchetta in famiglia, ma è uno scandalo. No, è vero, non lo sapevo. È il proprietario del ristorante San Cesario. Non lo sapevo. Vabbè, allora, abbiamo detto. Caro Cruciani, dimmi, Anna, allora dimmi. L'agnello è sì. Stato sempre mangiato. È sì. Proprio una ricetta ebraico-romanesca. Brava, sì. Mi sono mangiato sempre tutto. Che siamo mangiato sempre tutto. Io 44 anni di macelleria, che buttavamo tutto, prima non si buttava niente. Quanti anni hai tu, Anna? 74. Capito, a 70 questa sei mangiata di tutto, a 74 anni. Tutto, non c'è allora, 90, la signora 6. Anna Dente Cruciani, esami, parente evidentemente esami, di Giuseppe Cruciani. Ma non è nessuna parentela. Diciamo, perché ci ascolto solo per chiarezza. La ma signora non è vero, Anna no. L'ha detto no. Lei che è parente tua. Ma questa. Non ha detto che è parente mia, sì, si chiama Cruciani, sì. Ma non è così. Ma insomma. No, scusa. No, è mio marito. Che è il parte, marito no. Che è lo zio di Cruciani. Ma non è vero. Bello! Ma complimenti, bello! Stai facendo pubblicità a un ristorante. Un ristorante, vabbè, adesso io allora chiamo il mio macellaio di fiducia del paesino. Scusa, che ti ho non detto è vero, prima. Ragazzi, non ho nessun ristorante, non ho no, nessuna lo so, cosa. Lo so, vabbè, sto scherzando. Cruciani? Sì, dimmi, Anna, dimmi. Fallo sta zitto un attimo. Sì, adesso lo faccio sta zitto, sto deficiente, sì, hai ragione. Scusami, Anna, scusa. ma hai fatto l'esame del sangue ultimamente? È tutto a posto, perché tu c'hai 74 anni, hai mangiato la carne da una vita sempre, e non c'hai... Dillo sempre, mia madre 96 anni, ancora se la mangia mo. Ma sì, ma ragazzi, ma è così, dai, su, tutte stronzate. 60 anni di macelleria, guarda. Dimmi. Guarda, secondo me, cosa? E qua stiamo a farire, no, l'Italia, il mondo intero, perché io un anno fa sono andata a San Francisco. Sì, la prima cosa che gli abbiamo chiesto, ma qua ci sono i vegani. Lo sai che mi ha detto l'ebreo che c'ha tanti ristoranti? Mi ha detto, ma no, ma qui 25 anni fa... ci si fa questi vegani e poi sono spariti, perché se mangiano tutto là, i grandi, se mangiano le ostriche, se mangiano tutto, e come mai in Italia se ne sono ricordati mo dopo 25 anni che... Ma chi è questo qua di San Francesco, sto ebreo, chi è? San Francesco. Ah, no, sono ristoratori. Ah, ristoratori. Ma perché che dire che sono ebrei? Ma non ho capito. No, ma dove era San Francisco? Sono ristoratori che lavorano e guadagnano. Non so come l'Italia che fa a girare intorno al dito. Sì. Senti, Mirko, ma Berlusconi con l'agnello in mano, come l'hai visto Berlusconi? No, mi ha fatto proprio bene. E poi io 3 anni fa sono andata. Tu l'hai votato pure qualche volta? Alla 7 a Milano. Bene, a 7, fare ottimo. Il programma L'Agnello di Dio. Sì. A litigare con i vegetariani. Sì. Mo posso uscire pure i vegani. E allora io, guarda, meglio che non mi si fanno vedere, perché non lo so come reagisco. Dai una botta in testa, ma che ne so. Dai no, perché una padellata. Una padellata finita. Senti, ma Anna, quest'anno dimmi, avete fatto le feste con Cruciani, no, tutti, guarda, insieme? Cruciani, avete fatto... dimmi, Anna, dimmi. Poi ogni anno esce fuori sempre delle feste. Sempre l'agnello sotto Pasqua, sempre la sotto rottura. Ma io dico, ma perché? Ma perché? Poi, scusa, io voglio dire pure un'altra cosa. Dimmi. Ma quello che è successo a quei poracci da Matrice, con tutti quegli animali, certo, che mo là stanno come gambati tutti quanti, ma non si vergognano. Ma no, che vuoi fare? Senti, Anna, dimmi una cosa, ma parlando Anna Dente Cruciani, ma... dell'osteria di San Cesareo a Roma. Il marito si chiama Cruciani ed è molto probabilmente... No, un... non si chiama, non ci provate. È un non parente provate, stretto del, chiama, di uno Cruciani, dei conduttori di questa trasmissione. Comunque andiamo avanti senza conflitto di interesse. Dammi una ricetta per la testa di agnello, vai. Dammi una ricetta. Allora, la testina d'agnello si fa, prima si pulisce bene, sì, si lascia una notte sotto l'acqua corrente, sì, diventa bianca, sì, si pulisce bene, poi si pizza l'aglio, sale, sì, e il rosmarino, e si unge il pepe, e si unge tutto intorno, poi ci metti 2 patate, sì, e ti mangi il cervelletto, ti mangi l'occhio, pure la l'occhi, lingua, pure ti l'occhi, mangi tutto, no, pure l'occhio e la lingua ti mangi. Ma certo, certo. Pure l'occhio, certo. E come sanno gli occhi? Tu hai mai mangiato gli occhi della testina d'agnello? Ma come fanno? Te guardano e te li mangi, come guardano? No, come ma fanno? Io per carità, io li mangio, però non l'ho mai mangiati. Ma che sapore hanno gli occhi? Sono buoni. E la lingua? È carne. La lingua? È carne. La lingua pure, la cosa più buona è la lingua. Dicono alcuni che la cosa più buona è il cervello, in realtà, il cervelletto, eh? Sì, vabbè, perché gli mangia un po' di fosforo a qualcuno. Senti, ma dimmi una cosa, tu hai mai votato Berlusconi? Io no, non voglio da nessuno più, basta. No, ma non volevo capire che... No, te, che... se siamo stufati, quella foto con gli agnelli, che effetto t'ha fatto quella foto con gli agnelli, no, di mano? No, schifo. Schifo, mi ha fatto schifo. Schifo perché, scusa, ma che si fanno queste cose? Ma a me lo dici? Ma che davvero. Vabbè, Anna, ti abbraccio, ciao, ti abbraccio. Ciao. Saluti, signora. Buona Pasqua. Ciao, Anna. Grazie, ciao. Signora. Riccardo da Roma, chi è Riccardo? Che è Riccardo il solito? Ciao ragazzi, no, sono Riccardo della Maggioranza Silenziosa. Dimmi. Grazie, grazie. Allora, andiamo subito al punto. Sì. Io ho una fantasia sessuale. Non qual è? So qual è come la fantasia? Pensate. Qual è la fantasia? Ah, mi piacerebbe prendere il tiramisù. Sì. Oh, sì. Mamma mia. Spalmarlo. Sì. Tutto completo. Tiramisù, addirittura. No. Questa siamo non calme, è maggioranza silenziosa, però. Riccardo, dimmi che cosa vuoi. Questo fare? È, non è maggioranza silenziosa. Tiramisù da spalmare sulla vagina. È uno sporcaccione schifoso. Vabbè, ma d'accordo, vabbè, ma questa mia, è una ragazzi, ma roba, fatelo, dai, ma su. Che ma è una porcheria assoluta, dai. Vabbè, ma quello vabbè, d'accordo, ma sono fantasie, bene, ma come d'accordo? Ma che sono fantasie queste? Questa è una normalità questa, la normalità. Ma no, sì. Però è una mia fantasia perché non l'ho mai fatto e mi piacerebbe farlo. Quanti anni hai, scusa? Io ho 22, sono venuto ieri in radio. Cioè, ah, è quello di l'accompagnatore di quello. Sei paraculo, perché il giorno dopo ne hai approfittato per chiamare. No, sono io Riccardo, sono proprio io quello che ha parlato in diretta. Sono vabbè, io. Riccardo, 22 anni, hai la fantasia di spalmare. Adesso io dico il cognome di questo signore. Un tirami su sulla vagina. Rita Querela. Un tirami su sulla vagina. Vabbè, mi sembra che sia ancora all'ABC, amico mio. All'ABC. Lo so, devo lavorare, però devi lavorare. Grazie a voi farò dei passi avanti. Bene, Marcello da Como, vai, Marcello, vai. Marcello. Hai creato un mostro pure tu, Marcello da Como, vai. Persona di una famiglia così per bene, peraltro se sapessi. Dai, ebrei, magari ebrei. No, ma non sono ebrei dappertutto, basta. Marcello da Como, vai, Marcello. Mi sentite? Sì. Buonasera. Sì, allora, a proposito della testina d'agnello, i due signori hanno dimenticato il prezzemolo, che è basilare. Ok, ne prendiamo atto. Grazie. Prendetene atto. Poi io ho dei grossi dubbi, perché vedo che tutti quanti offendono David e io invece probabilmente sono sbagliato, avrò bisogno di uno psichiatra. Sì. Condivido il 95% delle idee di David. E vabbè, ma che cazzo ce ne frega a noi? Scusa, Marcello. Ma il fatto che me ne frega, questa è la mia opinione. Ma ho capito, ovviamente sei d'accordo? Tu, come al solito, sei di una educazione fantastica. Scusa, Marcello, hai chiamato per dire sono d'accordo con il 95% delle cose di Parenzo. Siccome lo offendono tutti... Ah, allora, siccome lo offendono tutto, tu volevi. Ma no, ma c'è una maggioranza silenziosa. No, non sei sballato. Perché sei sballato? Non sei assolutamente sballato. Fai parte della cosiddetta maggioranza. Si dice maggioranza, ma in realtà non è maggioranza. Sì, maggioranza silenziosa. Vabbè, Claudio da Messina, vai, Claudio. Claudio. Ciao cari, no niente, scusa niente, volevo dirti, visto che le teste d'agnello lì, ti volevo consigliare le teste di Coriglio. In Puglia si dicono capuzze al forno con le patate, le capuzze. Lo sai chi le adorava? Pinuccio Tatarella, addirittura le pinuzze, no. Le capuzze. Vai. Grande esponente del movimento. Vai, Claudio, dimmi. Sono ottime, te le mangi col cucchiaino, sì. Tipo d'esperto, sono buone, ottime anche le guance. Sì, ma cotte però, mica crude. Al forno, l'ho detto prima. Sì. All'agrodolce. Con le patate. E con sì, però non possiamo diventare una trasmissione di cucina. No, adesso, appunto, è così. No, chiudiamo, capito, con Mauro da Mantova, che gode per l'intervento di ieri sera. Ragazzi, a domani, ciao. Ragazzi, ieri sera ero carico. Siamo lo stratoppe. Sto imbecille, se lo becco gliene do una proprio... Gliene do una fila, uno di schiaffi. Voglio rompermi la mano, faccia di Daniel. A sto coglione di merda. Quanto mi sta sul cazzo, sto ebreo idiota di merda. Se lo odio. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Parenzeo, vai via. Radio 24, libera la voglia di fare.